divulgazione dell'essenza dei regimi fascisti, uso questo termine senza voler, uso questo termine. No, per gli ascoltatori di lingua tedesca. Certo. Uso questo termine senza voler sposare la tesi del nazismo come Deutscher Faschismus, ma solo per comodità, è ancora una questione aperta. Se io propongo di prendere come momento di verifica della natura di questi regimi il loro carattere di regimi a partito unico e più specificamente la forma assunta da questi partiti, non muovo perciò da nessun intento imperialistico. Non intendo cioè negare l'utilità o la legittimità di altri approcci, ma solo dimostrare, almeno lo spero, e spero di averlo fatto con il mio studio Demagogia e Tirannide, che qui non riprenderò, spero di dimostrare che quest'angolo di visuale consente una risposta ad importanti quesiti. Naturalmente occorre intendersi circa il terreno su cui ci si muove. Vorrei analizzare la struttura costituzionale, non ovviamente con l'ottica del giurista positivo, ma con quella dello storico costituzionale, dell'organizzazione politica a cui diede vita l'assunzione del potere da parte di Mussolini e di Hitler, e capire, o meglio, porre qualche elemento per capire, secondo la classica questione ermeneutica, donde veniva e donde andava questo regime politico. Con ciò prescindo da una ipotesi di storia materiale delle due formazioni, di ricostruzione di molti aspetti in sé importanti, ma non primariamente significativi per questo approccio. Per rifarmi ad una terminologia recentemente introdotta nella polemica, io sono un funzionalista, non un intenzionalista. Non vorrei perciò che fosse interpretato come un'ambizione a prescindere dai dati di fatto. Più semplicemente significa tenere presente altri dati di fatto, dati di fatto diversi rispetto alle parole di Hitler o di Mussolini, alle intenzioni del federale di Forlì o del Gauleiter di Amburgo, alle deficienze di realizzazione dei piani, eccetera. Essendo poi in sede privilegiata, qual è una discussione seminariale, ho rinunciato a dare a questo intervento un taglio espositivo, cioè a passare puntualmente in rassegna una lunga serie di dati, preferendo piuttosto esporre l'organizzazione di questi dati e dunque una linea interpretativa con un inevitabile inasprimento dell'analisi e, purtroppo, un appiattimento del momento di sviluppo temporale interno. Una perdita quest'ultima molto importante, perché una delle caratteristiche dei due regimi fu proprio, specialmente per il fascismo, secondo me, un dato di improvvisazione temporale dei vari istituti, un carattere di contingenza di molti atti, anche istituzionalmente molto importanti. So peraltro di parlare a un uditorio che queste cose le conosce e dunque le terrà presenti sullo sfondo. Per entrare nel vivo del nostro tema è tuttavia necessario fornire in premessa una definizione di cosa si intenda con l'espressione forma partito, che sia detto per inciso non è una formula recente, né tantomeno mia, perché la si trova testualmente nel noto saggio del Bluntschli del 1859. Con essa si tenta di individuare il significato normativo, in senso antropologico, cioè la capacità di interagire in termini di regolazione su una organizzazione sociale, di una istituzione, che tale è il partito, cioè non una unione di singoli in vista di un fine, cioè non un'associazione dove si mantiene la individualità delle volontà aderenti e dove il fine fornisce la limitazione delle prestazioni esigibili dai singoli e il confine dell'obbligazione politica, ma una organizzazione in cui il significato originario dell'adesione è fortemente diminuito dalla natura di persona che l'organizzazione stessa si autoattribuisce, fruendo pertanto di una identità distinta rispetto alle volontà degli aderenti e dunque di una capacità di porsi verso di essi aderenti come realtà normativa stabile, reagente di volta in volta agli eventi esterni, dotata di volontà e capacità di agire che sono costituzionalmente altre rispetto alle individualità fisiche che ne sono in concreto lo strumento di espressione. Se non ci si mette all'interno di quest'ottica, diventa a mio avviso molto difficile la comprensione del carattere totalitario dei partiti fascisti come dato invece normale della forma partito contemporanea, trasformandolo in una semplice definizione, questa di totalitario, di tono moralistico. E si sposta su questo dato, anziché su questo dato della totalitarietà, anziché sul carattere della loro unicità legale, l'attenzione dell'analista. L'esame della questione del partito nei regimi fascisti deve infatti muovere dal sussistere del partito prima della conquista del potere come istituzione concorrenziale rispetto ad altri partiti, da cui questo pretende di differenziarsi nell'essenza, ma si tratta di una polemica strumentale su cui ritorneremo. Nella trasformazione della politica che si era avuta tra 8 e 900, L'emergere del partito come attore politico centrale costituisce, a mio avviso, uno dei dati più importanti. Esso segnava la rottura del dualismo del rapporto politico che si era avuto dopo le guerre civili di religione dell'età moderna, quelle che, per l'appunto, erano legate alla presenza disgregatrice dei partiti religiosi, allora, entro lo spazio politico del sovrano. Come si sa, mi limito qui a riassumere tesi largamente note, la via d'uscita era stata quella della riduzione degli attori politici alla copia individuo sovrano ed il divieto di fatto della opinione come opinione socialmente istituzionalizzata. Vorrei ricordare che la stessa rivoluzione francese ripeterà con orgoglio, leggi Le Chapelier, che tra il cittadino e lo Stato non v'è nulla. È altrettanto vero, però, che attraverso l'ammissione che l'opinione può legittimamente esercitare una presenza politica, Locke, non si badi bene di organizzarsi o istituzionalizzarsi, che questa è un'altra cosa, si era arrivati ad una ricomparsa e ad una progressiva crescita di quelle opinioni organizzate che sono, semplificando, i partiti liberali e conservatori del primo Ottocento. Ma naturalmente, a fronte di questi partiti, per così dire legittimi, c'erano, per varie vicende storiche che non è qui il caso di esaminare, delle opinioni organizzate perfino antitetici rispetto a quelli della società politica. Questi gruppi sovversivi istituzionalizzarono la propria opinione, cioè trasformarono se stessi in una triplice direzione. Primo, divennero altra cosa rispetto all'adesione dei consociati per poter così decidere, punire i traditori, fissare una fede unica, eccetera. Secondo, si dotarono di strumenti di azione concreta, assumendo in genere il modello dell'organizzazione militare combinato con quelle delle istituzioni religiose come il modello più adatto a garantire il rapporto azione-obbedienza. Tre, si strutturarono come microsocietà omogenee che al proprio interno prefiguravano la trasformazione dello Stato che essi proponevano. Potrei fare dei riferimenti molto puntuali allo schema delle associazioni mazziniane e anche un riferimento preciso a una frase di Mazzini dove dice che il partito è lo Stato del futuro. L'esempio più socialmente appariscente cui approdò questa trasformazione fu però quello dei partiti socialisti, soprattutto della socialdemocrazia tedesca. Basterebbe leggere le 500 e più pagine che il francese Edgar Milhaud dedicò nel 1903 all'analisi dell'SPD per capire cosa significasse per un osservatore esterno, in termini di capacità di resistenza e di insediamento sociale, il dato della organizzazione. L'emergere di questa nuova realtà portò peraltro ad una crisi profonda di quello schema di rapporto diretto individuo-sovrano, basato sul concetto della protezione, che è tipico dell'instaurazione dello Stato moderno. Apparve nella crisi di fine secolo, anche qui non dico mica niente di nuovo, l'emergere di una paura collettiva da parte di quei sudditi che, come semplici individui, non potevano trattare col potere politico attraverso il filtro di una organizzazione. È tipica di questo periodo la trasformazione di un istituto fondamentale della modernità come il contratto di diritto privato basato sul rapporto tra individualità con valore di legge tra le parti attraverso il progressivo riconoscimento della atipicità del contratto di lavoro dove la libertà tra le parti diviene molto relativa ed un soggetto, il prestatore d'opera, tende a non essere più una individualità ma una figura sociale rappresentata da una istituzione, il sindacato. Questo nel sistema giuridico, non nella teoria politica. Emerge contemporaneamente il cosiddetto welfare state come forma di redistribuzione della ricchezza attuata dallo Stato per il controllo di soggetti politicamente organizzati. È già stata più volte sottolineata la dipendenza ideologica dei fascismi dai movimenti di destra che agirono in questi contesti di fine Ottocento e inizi Novecento. Tuttavia, non mi pare si sia molto insistito sulla percezione della nuova forza della forma partito alla socialista come uno degli elementi cardini della crisi che portarono gli esclusi da questa tutela a reclamare ad un tempo, e questo secondo me è il dato fondamentale, questo reclamo ambiguo, ad un tempo la eliminazione dei partiti per tornare all'antico rapporto sovrano-cittadino e contemporaneamente la creazione anche per essi di un'identica forma di tutela politica. Com'è facilmente intuibile, questa contraddizione è presente nel fascismo e, in forme notevolmente diverse, nel nazismo, che le risolveranno dichiarandosi ad un tempo partiti, ma totalmente diversi rispetto alle precedenti esperienze di partito. È invece mia convinzione che essi si siano diversificati solo per il criterio, che naturalmente è tutt'altro che banale, della qualifica di partito unico, a prescindere naturalmente anche qui, ancora una volta, da valutazioni di carattere morale. Per capire appieno il carattere della unicità, bisogna tornare un attimo su quell'altro aspetto fondamentale della legittimazione del potere quello che normalmente viene definito con la categoria di consenso. Si tratta di una categoria che proprio la ricerca sui fascismi ha finito per banalizzare, riducendola troppo spesso a contenuti psicologici inverificabili e costituzionalmente irrilevanti. L'accettazione di un regime politico da parte dei sudditi è in realtà qualcosa di diverso dal grado di simpatia psicologica che essi individualmente riservano al sovrano. Esso è invece il normale dato storico che risulta dal combinarsi di una serie di relazioni giuridiche, semplificando il quadro di certezza dei rapporti che lo Stato come produttore di diritto e tutore della sua esecutività garantisce, con la detenzione da parte del sovrano di quei mezzi di coercizione che gli consentono di espellere dal predetto quadro giuridico le forze contrarie all'esercizio della sua sovranità. Il tasso di violenza che ciò implica è una variabile che dipende da fattori contingenti che non incidono però sulla natura teorica del problema. In questo quadro, il problema dello Stato non è in realtà quello di acquisire consenso nel senso psicologico, ma quello più classico di garantirsi la fedeltà dei sudditi. Se non che nell'età contemporanea non si può prescindere dalla razionalità come dato portante della fedeltà. Dalla rivoluzione illuministica in avanti non si può più imputare il dovere della fedeltà come un semplice postulato dell'esigenza di evitare la guerra civile, anche se nei regimi fascisti accenni strutturali a questo problema non mancano, cioè questo problema che se non c'è l'unicità torna alla guerra civile. Esso deve invece derivare dal consenso della ragione al fine teleologico dello Stato, la realizzazione di un interesse generale che naturalmente non esiste per così dire in natura, ma è appunto frutto del lavoro di astrazione della ragione e dunque è in definitiva ideologia. Essendo però questa fedeltà atto razionale verso un sistema intellettuale e dunque struttura mutevole, esso deve periodicamente trovare strumenti di rinnovazione e di espressione pubblica. Non servirà a dire che il metodo classico di espressione di tutto questo è il meccanismo elezioni-rappresentanza. Tuttavia, e qui torniamo più da vicino alla questione della forma partito dei fascismi, proprio il momento elettorale era stato la levatrice della forza dei nuovi partiti che si presentavano non già come esponenti di interessi generali, questi erano i vecchi partiti, liberali, conservatori, ma almeno i più forti e compatti come riorganizzazione di quella società civile che la rivoluzione dello Stato moderno si rifiutava di concepire come organizzabile in parti istituzionalizzate. Emergeva insomma un problema tutt'altro che semplice. Gli stati contemporanei erano diventati, per dirla con Otto Inze, dei Kulturstaaten, pur essendo giuridicamente rimasti organizzati entro i vecchi schemi dello Stato assoluto, schemi aggiornati dal Reichstag, che dava la fedeltà come ad un tempo frutto naturale della sovranità e frutto garantito dalla natura ad un tempo coercitiva e persuasiva della legge. Ciò supponeva però un unico centro istituzionale, o per dirla in altri termini, un'unica persona giuridica pubblica, cioè lo Stato. Nel momento in cui si erano affermati dei partiti come istituzioni, i cittadini, o almeno una parte di essi, si erano venuti a trovare titolari di una doppia sudditanza. Da un lato quella allo Stato, dall'altro quella alle vecchie e nuove istituzioni sociali, i partiti, ma qui vorrei ricordare la grande questione del problema dell'appartenenza alle chiese, che si presentano come persona giuridica pubblica, è un problema particolarmente importante nel caso della Chiesa Cattolica. Questi altri soggetti che non mancavano di sovranità sui propri membri, richiamo ancora il problema della Chiesa Cattolica, in cui questo problema della sovranità verso i propri membri è un problema tutt'altro che secondario. Tutto ciò aveva prodotto non poca confusione, soprattutto per quella classe sociale, la borghesia, che protagonista della prima rivoluzione politica, in nome della categoria dell'interesse generale e prima beneficiaria della distruzione della società civile come complesso di istituzioni, si trovava ora ad essere un soggetto politicamente debole, soprattutto in quegli stati come Italia e Germania, dove essa aveva in sostanza finito per identificarsi con lo Stato, cioè aveva finito per fare dello Stato il proprio partito. Questi pensieri erano largamente presenti nella riflessione politica della fase che stiamo trattando, una riflessione che aveva perfettamente colto molti caratteri della trasformazione, anche se non aveva saputo quasi mai collegare l'analisi di questa situazione con una ipotesi di superamento che conglobasse le novità, anziché allarmarsi semplicemente per il loro mettere in discussione la geometria della faticosa costruzione della società politica moderna. I partiti fascisti nascono esattamente come risposta alle sfide che la crisi politica poneva, finendo poi essi per mostrare, col loro drammatico fallimento, come l'antica geometria politica non fosse semplicemente ricomponibile con qualche ardita operazione di sintesi superficiale, che questo secondo me fecero i fascisti. Se noi prescindiamo infatti dal contesto sopra schizzato, non comprenderemo mai il fascino che i fascismi esercitarono su tante personalità soggettivamente di alta cultura, da Carl Schmitt a Vilfredo Pareto, tanto per fare qualche nome. Tutte persone che finirono, come spesso fanno gli uomini di scienza, di innamorarsi più della supposta prova storica alle loro intuizioni ed analisi che di accorgersi del carattere truffaldino e confuso di queste verifiche per la pochezza intellettuale e politica dei capi e dei gruppi dirigenti dei fascismi. I partiti fascisti costituirono indubbiamente una risposta alle crisi sopra descritte e parzialmente anche una risposta consapevole sul piano ideologico. Non fosse altro perché, in diversa misura, la loro propaganda esplicitò questi nessi. Tuttavia, la risposta che i fascismi fornirono a queste crisi fu completamente sovrastrutturale, se mi si consente questo termine un po' ambiguo, cioè esplicitantesi a livello di soluzioni verbali, ma completamente incapace, per gravi deficienze istituzionali interne e per pochezza dei gruppi dirigenti, di incidere a livello strutturale nel modo di organizzazione delle relazioni politiche. La prima risposta che i partiti fascisti fornirono alle crisi che ho cercato di descrivere fu proprio quella di porre alla propria base un partito, se mi si consente un'espressione un poco a punta, alla socialista, ma adatto alla militanza ad un tempo borghese di massa. I due termini non appaiono in contraddizione. Va in primo luogo osservato che come partito alla socialista, il PNF e l'NSDAP si caratterizzarono proprio in quanto strumenti nati per sconfiggere i rossi. Essi avevano recepito da questi il requisito della complessità organizzativa, cioè della capacità di strutturare al proprio interno una rappresentanza sociale il più possibile completa, che abbracciava tutti i settori di azione della società, non tutte le classi, non è un problema di interclassi, ma è un problema di rappresentanza di tutti i settori di azione della società e di tutti i settori di intervento dello Stato in parallelo. Naturalmente non si tratta di caratteristiche che si siano raggiunte in un giorno, ma certo abbastanza presto in entrambe le esperienze. Il traguardo del partito come laboratorio politico dello Stato è conseguito dal fascismo italiano con l'invenzione del Gran Consiglio, gennaio 1923, che nasce come strumento extrastatale, e dal nazismo in forma completa con la riforma di Strasser del 1932, ma già anticipata da una serie di misure del 1928. Questo modo di essere tende a dimostrare come, in una fase ancora di pluripartitismo in entrambi i regimi, sia possibile esercitare da parte di partiti non socialisti le stesse ragguardevoli funzioni di organizzazione, di elaborazione decisionale, di Stato nello Stato, che avevano contraddistinto i socialisti. Addirittura se si esamina lo statuto del 1921 del PNF, si vede abbastanza chiaramente come il modello costituzionale interno non sia particolarmente diverso da quello di un partito socialista, sino alla importante similitudine di non prevedere cariche di natura personale, ma di far risiedere il potere in organi collettivi che partono, che si fondano sul congresso di partito, che è un'invenzione dei socialisti. E del resto, questo era l'inevitabile dato della cultura politica di tutto il gruppo dirigente fascista che usciva, per un verso o per l'altro, dal confronto con le organizzazioni del movimento operaio. Il modello è naturalmente meno chiaro per la NSDAP, perché essa agisce in un contesto in cui la valenza pubblico-istituzionale della forma partito è addirittura recepita in sede di Costituzione, la Costituzione di Weimar. A ciò si aggiunga che le leggi vigenti richiedevano taluni requisiti obbligatori per i partiti, perché i partiti fossero soggetto pubblico. Partiti che erano soggetti a registrazione, mentre nulla di simile esistevano in Italia. Per cui gli statuti pubblici dei partiti tedeschi sono da interpretarsi con maggiore cautela, cioè ci deve essere devono essere certi requisiti di legge. Eppure, nonostante a partire dal discorso di Hitler del 27 febbraio 1925, si ponga con estrema chiarezza la questione della fondazione personale del potere, il cosiddetto Führerprinzip, la riorganizzazione avviene per il resto alla socialista, cioè sulla base di una combinazione centralizzazione, verticalizzazione e burocratizzazione che aveva costituito uno degli aspetti più critici dello sviluppo dell'SPD nel periodo guglielmino. A questo punto si incontra una questione molto interessante. Ferre e leggi a parte, la caratteristica dei partiti socialisti, come, voglio ricordarlo, partiti usciti dalla rivoluzione democratica, era stata quella della elezione dei capi da parte della base. Questo meccanismo viene invece di fatto assai rapidamente bloccato nei partiti fascisti, questa è una novità, Nel PNF, già dalla decisione del Gran Consiglio del 15 ottobre 1923, che stabilizzava il criterio della nomina dei capi dei partiti dall'alto e per opera dello stesso Mussolini, senza mediazione, questa nomina per quanto riguarda il direttorio come potere di convalida nel caso delle elezioni dei segretari provinciali. Nell'NSDAP con lo statuto del 1926 che conferisce ad Hitler il potere di nomina e di revoca dei Gauleiter, mentre dal luglio di quell'anno i dirigenti di distretti e sezioni, che sono ancora elettivi, sono sottoposti al limite dell'approvazione dei rispettivi Gauleiter, con un meccanismo di controllo gelato. Non è però l'assenza di una forma di democrazia interna un ostacolo insuperabile a considerare il PNF e l'NSDAP all'interno della categoria dei partiti? Questa è una questione che è stata posta. Si tratta di un'argomentazione già sostenuta polemicamente in ambito fascista per sottolineare la natura diversa di queste organizzazioni, che si diceva del partito avevano mantenuto soltanto il nome per ragioni sentimentali. In realtà il rapporto tra partito e democrazia è, secondo me, un rapporto meno organico di quanto l'esito parlamentare ottocentesco o l'assunzione a paradigma del modello inglese non possano far immaginare. E ciò è tanto più da tenere presente se si pensa che il carattere reazionario, cioè di reazione, dei fascismi, assumeva della forma partito il contenuto, per così dire, di potere, cioè la forza che sul piano del governo politico si era visto essere interconnessa all'organizzazione, più che non il contenuto di laboratorio sperimentale per l'educazione collettiva alle procedure democratiche, che pure era l'altro aspetto che i partiti ottocenteschi avevano avuto. Questa caratteristica, infatti, si legava a certe contingenze particolari di lotta politica che avevano accompagnato il sorgere dei partiti. O radicarsi in un contesto parlamentare altamente dinamico e quindi con funzione di modello trainante, come era nel caso inglese, o la pretesa polemica di rappresentare il massimo di partecipazione dei consociati alla formazione della volontà pubblica rispetto a quanto non avveniva negli avversari, la polemica appunto dei socialisti verso i limiti della democrazia borghese. Ma non solo si erano avute forme partito embrionali con scarsa democrazia, in Italia sempre i gruppi massignani per fare l'esempio più grosso, bensì era perfettamente possibile avere organizzazioni che agissero come partiti senza alcuna necessità di controllo dal basso dei meccanismi di selezione dei gruppi dirigenti. Bisogna tenere presente ancora che i partiti fascisti si rivolgevano poi come ambito di reclutamento ad una massa che era composta, se mi si consente una generalizzazione, da due couche. Da un lato la piccola borghesia d'ordine, dall'altro lato la manovalanza violenta, socialmente composita ma livellata dall'esercizio di questo, chiamiamolo così, mestiere del teppismo politico. Ora, la piccola borghesia, ed anche quella media in parte, non era mai riuscita nell'Ottocento a formare, almeno nell'Europa continentale, perché per l'Inghilterra il discorso è diverso, il suo partito. Era questa la lagnanza di tutti gli scrittori politici non socialisti e non cattolici che avevano per varie vie e con intenti vari auspicato la nascita di questa araba fenice. E per citare due esempi tra loro diversissimi per contenuto e spessore culturale, ricorderò da un lato i nazionalisti in Italia, che sono stati spesso ricordati, e il Naumann di Demokratie und Kaisertum in Germania. Nessuno, tuttavia, almeno a mia conoscenza, si era soffermato sulla scarsa adeguatezza della forma partito allora sperimentata per una classe apolitica come era la borghesia dell'Europa continentale. Per essa infatti vigeva ancora quel modo di intendere il rapporto sovrano-suddito tipico della rivoluzione moderna, fedeltà in cambio di protezione, ma scissione della sfera pubblica e della sfera privata, essendo la seconda quella in cui si esercita la sovranità del sindaco, del singolo. In casa propria ciascuno è re, ed essendo il compito del pubblico potere proprio la tutela della intangibilità di questa sfera privata. Chi voleva emergere a livello dell'amministrazione della cosa pubblica entrava nel servizio del sovrano, ma non già agiva dando vita ad istituzioni concorrenti con lo Stato. È chiaro che questo approccio aveva delegato allo Stato la sfera dell'attività politica e dunque non prevedeva alcun attivismo del singolo, ma solo una risposta passiva di obbedienza. L'eccezione dell'Inghilterra deriva, voglio ricordarlo brevemente, dal fatto che qui non esiste lo Stato come si intende sul continente. La forma partito dei fascismi non è stata creata avendo di mira questo problema, ma ha avuto successo in buona misura perché finiva per rispondere alle esigenze che ho delineato. Il principio antidemocratico all'interno del partito non era né originario né necessario all'interno del PNF e dell'NSDAP. In una fase iniziale, come ho già detto, entrambi questi partiti avevano strutture di selezione democratica dei dirigenti e per la formazione della volontà dell'istituzione si affidavano al normale strumento democratico del Congresso. Il blocco di queste procedure deriva, a mio giudizio, da una precisa contingenza. Il problema di governare una situazione giovane e povera di quadri all'altezza dei compiti, inquinata dal problema dell'arruolamento di elementi paracriminali per la violenza politica. A questo fine non è sufficiente il potere decisionale assoluto del capo, che pure potrebbe astrattamente convivere con forme di democrazia, almeno nella selezione dei capi intermedi. È il personale politico che è strutturalmente inadatto a questo compito di gestione della democrazia, che, mi si permette ancora una volta di semplificare, richiede a garanzia delle cosiddette regole del gioco di un minimo di cultura diffusa che in questi partiti in questa fase non esiste. Se non si tiene presente questo quadro, diventa inspiegabile perché queste operazioni siano state fatte praticamente senza opposizione. Anche se è eccessivo dire che non sia esistito all'interno di PNF e di NSDAP un certo gruppo di uomini politicamente capaci. Tornerò più avanti sul problema di questo gruppo, che io chiamo dei cardinali del regime e del suo ruolo nei due sistemi. Qui mi preme solo rilevare che questi uomini non poterono condurre e non condussero mai una reale battaglia per il mantenimento di uno spazio di democrazia nelle strutture di partito, perché essi stessi erano perfettamente consapevoli che questo gioco era per loro molto pericoloso. Se ci furono tensioni, e non si può non accennare qui almeno al caso di Gregor Strasser, esse non toccarono principalmente questo punto specifico, cioè questo punto della mancanza di democrazia. Benché nata dunque per contingenze specifiche, questo aparlamentarismo della forma partito dei fascismi si attagliava perfettamente alla domanda di apoliticità che veniva dalla cultura della piccola e media borghesia. Uomini disposti a farsi inquadrare, consci che l'inquadramento esigeva sacrifici, pur a fronte di ricompense, e tuttavia alieni da quella che chiamerò la militanza, cioè dalla partecipazione attiva a scelte e a dibattiti, con i conseguenti rischi di sbagliare e costi in termini di impiego, successo, eccetera, eccetera. È questo che spiega il successo di massa dei partiti fascisti e l'assenza di tensioni sociali e politiche nella struttura generale, pur in presenza di masse di iscritti enormi. Per questi militanti borghesi, infatti, il partito è, mi si consente ancora una volta un'immagine tratta dalle similitudini religiose, una sorta di cresima aggiunta al battesimo della cittadinanza. In sostanza, la cittadinanza, cioè la pienezza del diritto politico, che è una cosa ben più complessa del semplice dato di appartenenza per nascita di uno Stato, dava, in cambio della fedeltà al sovrano, una certa serie di diritti. Ma questi diritti nell'Ottocento si erano allargati a tutti, mentre non tutti erano cittadini in inizio. Anzi, alcune parti della società avevano addirittura acquisito dei privilegi in forza del loro appartenere ad istituzioni politiche in grado di trattare direttamente con lo Stato. Ed in più era addirittura venuta meno la possibilità di riconoscere esteriormente i buoni cittadini nella gran notte dell'età delle ideologie. Ebbene, la forma di partito fascista garantisce a buon prezzo la ricomposizione di questa società. Grazie alla tessera si è tornati in forma ideologica alla sanzione della cittadinanza per le sole persone che accettano i limiti della fedeltà politica. Questa posizione si può trovare molto esplicita in un articolo di Sergio Pannunzio del 1928, dove si teorizza che il diritto di ieri fu la scheda elettorale, il diritto di oggi è la tessera. La tessera è il simbolo di una società politica organica, in cui ogni componente non è parte a se stessa, ma intanto è qualcosa, conta e pesa qualcosa, in quanto è tesserato. E mi limiterò qui a richiamare l'accenno, per accenno, sia la passività del diritto simbolizzato dalla scheda elettorale, che non è un diritto, si chiama diritto attivo, ma in realtà è un diritto passivo, sia l'ampio dibattito lungo tutto l'Ottocento sulla limitazione del diritto di accesso alla scheda, limitazione solo a chi poteva a priori essere considerato cittadino affidabile. Quella che è considerata la più grande democrazia dell'Occidente, l'Inghilterra, è quella che ha il diritto di voto più limitato per questo motivo. Tuttavia, prima di passare ad analizzare il posto concreto dell'inserimento di questi partiti in regimi costituzionali già strutturati e che essi potevano mutare solo con fatica e non del tutto, perché questo è uno degli altri grandi problemi istituzionali, bisogna toccare un ultimo punto che tenta di chiarire un nesso essenziale ed una essenziale funzione della forma partito dei fascismi. Mi riferisco a quel fenomeno di manifestazione del consenso in forme liturgiche di massa che indubbiamente costituisce una caratteristica di questi regimi e che, sia detto en passant, secondo me contribuisce a differenziarli dall'esperimento bolscevico in cui Questo problema del consenso, del partito che manifesta il consenso come liturgia di massa, non esiste. La funzione liturgica di questi partiti non appartiene tanto, mi sia consentito, alla querela sulla manipolazione politica. Essa ha invece una precisa radice giuridica nella sua natura di sostituto dello strumento elettorale. Per capire questo bisogna tenere presenti alcuni dati. Né il fascismo né il nazismo andarono al potere con un reale colpo di forza, cioè con una rivoluzione. Nessuna Macht ergreifung, ma più semplicemente Machtübernahme, come si diceva allora, mi riferisco alla recente nota di Frei. In entrambi i casi, sia pure con modalità diverse, vediamo infatti la ricerca di ratifiche elettorali. L'eccepire che queste ratifiche elettorali sono manipolate non è dirimente, perché la storia elettorale in tutti i paesi è piena di manipolazioni. La storia delle elezioni inglesi fino al 1860 è la storia di una delle democrazie elettorali più corrotte. Ora, proprio in vista di una garanzia di successo alle elezioni, il partito era lo strumento necessario ed indispensabile. Qui ci sono naturalmente delle grosse differenze fra fascismo e nazismo, che posso solo accennare. Mussolini aveva bisogno del partito per dare unità di interpretazioni esterna a liste che, chiaramente nel 1921, ricordiamoci, erano 45 eletti fascisti su un blocco di 275 deputati, e in maniera un po' più confusa nel 1924, ma anche qui c'è un listone, erano concentrazioni trasformistiche di destra che avrebbero potuto volgere verso molti approdi ed anche sfaldarsi se non ci fosse stata questa mancanza di unità del partito che a un certo punto si appropria di questo successo dicendo è mio. Mentre Hitler combatteva invece in un sistema costituzionale basato sui partiti e solo come capo del partito giusto poteva ottenere la vittoria. E in questo senso l'NSDAP ha una storia molto più tipica dal punto di vista di partito, con 6 anni di lavoro in un sistema pluripartitico, 6 elezioni nazionali combattute nella sua storia, un gruppo dirigente centrale e periferico che in questi eventi, in queste elezioni, aveva formato uno spirito di corpo come gli altri partiti. Dopo la presa di potere, progressivamente, lo strumento elettorale, ideologicamente vetusto e politicamente pericoloso, doveva essere eliminato. Ma tuttavia si doveva mantenere il requisito che un consenso politico al regime doveva essere visibile e verificabile. In assenza di questo requisito della visibilità e verificabilità, i termini li metto ovviamente fra virgolette, del consenso, la legittimità del potere veniva molto messa in crisi. Questo è un portato della trasformazione liberale della Costituzione europea, sebbene ciò possa anche essere retrodatato. Ci si potrebbe ricordare la vecchia diatriba su chi fa le leggi, l'antica formula principe e popolo fanno la legge, non principe solo, principe e popolo fanno la legge, eccetera, ma andremo molto lontano. Mi limito a richiamare l'esperienza di critica dell'assolutismo nei fascismi con un momento interno importante. Non si dimentichi che almeno il fascismo italiano, ma anche Carl Schmitt come teorico del nazismo, nella sua fase teorica del nazismo, ci tenne sempre a caratterizzarsi come regime nettamente distinto dall'assolutismo. C'è una differenza sostanziale fra fascismo e nazismo. Mentre in Italia si parla di una democraticità fascista con appello ad elementi in fondo tradizionali del codice politico ottocentesco, il conto di chi ha manifestato adesione con la tessera, la garanzia della tutela dell'interesse generale col sistema corporativo, l'autoproclamazione di essere uno Stato di diritto, eccetera, in Germania mi sembra perché purtroppo non ho una conoscenza così approfondita, il consenso si sia sciolto nella categoria romantica del Blutungboden, del rapporto Führer-Gefolgschaft, una teoria razziale del popolo, eccetera, che ideologicamente non hanno alcun legame col sistema razionalistico del costituzionalismo ottocentesco. Ritengo peraltro che non sia esclusivamente, neppur principalmente in termini di legittimazione interna, che debba essere letto questo ricorso ad una forma partito volta a permettere l'estrinsecazione del consenso. Uso questi termini in senso di rilevanza formale e giuridica di un atto. Che quest'atto sia in realtà manipolato e che anzi lo strumento di manifestazione di questo consenso sia al tempo stesso uno strumento di manipolazione, in questo momento lo mettiamo fra parentesi. La questione del consenso era invece, a mio giudizio, decisiva per la legittimazione internazionale dei due regimi. Come si sa, gli obiettivi internazionali del nazismo e del fascismo erano ampi, anzi costituivano, per il secondo, addirittura fin dalla fase iniziale, un tema portante. Ora, non si deve dimenticare che nel sistema dello Ius Publicum Europeum era ormai divenuto operante il criterio che soggetto internazionale pienamente legittimo fosse solo uno Stato che rispondeva nei suoi canoni organizzativi ad alcuni elementi almeno del modello del costituzionalismo liberale. Proprio Carl Schmitt fa notare in una sua conferenza del 1943-44 che il principio è stato addirittura recepito nel trattato di pace con la Turchia nella Prima Guerra Mondiale. Ma va anche ricordato che gran parte della trasformazione della carta politica uscita dal congresso di Vienna era stata gestita con ricorso, allora controverso, a questo principio del consenso. Si pensi alla questione italiana, allo smembramento dell'impero ottomano, alla stessa formazione del Reich tedesco, che, come ha fatto, secondo me, convincentemente notare Lothar Gall, Bismarck volle fondato sul suffragio universale, non per un machiavellismo verso le forze interne, ma per una legittimazione sul piano delle relazioni internazionali, perché il Reich non potesse venire messo in discussione nell'ambito delle relazioni internazionali. L'esigenza di legittimazione demagogica, in termine tecnico, cioè di democrazia corrotta, della propria rappresentanza esterna della nazione, era per entrambi i regimi essenziale, visto che essi ponevano la potenza fra i fini politici del nuovo Stato. Che poi questo processo fosse percepito con chiarezza è una questione più delicata. Quantomeno va detto che più volte i dittatori fecero ricorso apertamente all'argomento della prova di consenso che era implicita nell'inquadramento sociale sotto le bandiere del regime e fecero ricorso a questo argomento in polemica con le critiche straniere. E tutto ciò senza negare altre possibili valenze interne, come quella importante che la percezione di un consenso generalizzato attraverso queste istituzioni toglie volontà di manifestarsi alle opposizioni che nascessero, così come la conoscenza di un apparato repressivo della legge fa sì che la legge sia obbedita non per la repressione ma per il timore ipotetico della repressione. Se fin qui ho esaminato le risposte a sfida dei regimi fascisti attraverso le loro forme di partito in rapporto a quella che potremmo chiamare la crisi ideologico-strutturale delle costituzioni contemporanee, resta da indagare il concreto realizzarsi di queste risposte una volta che esse si furono inserite in regimi che erano sì in crisi, ma ben lungi dal dissolversi nel loro nocciolo duro, come aveva predicato il dibattito pubblicistico di quegli anni, tant'è vero che questo nocciolo duro è secondo me sopravvissuto tuttora. A questo proposito si devono tenere presenti due ordini di problemi. Da un lato il più generale rapporto fra le strutture di governo degli stati contemporanei e le mutate esigenze di organizzazione e di direzione della società introdottesi con la trasformazione a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Dall'altro la concreta situazione costituzionale entro cui si collocava l'assunzione del potere da parte di Mussolini e da parte di Hitler. Due situazioni che, lo ripeto ancora una volta, non sono niente affatto simili. La migliore presentazione del quadro generale di cui sopra rimane, al mio giudizio, il libro non ancora superato di Hans Frankl sul doppio Stato, tante volte qui ricordato, ma secondo me spesso in maniera imprecisa. Per presentare le cose nei termini proposti da questo autore, si deve ricordare che la doppiezza dello Stato contemporaneo è data dal non scindibile coesistere di normative state, cioè di una struttura, cito le parole di Frankl, di una struttura amministrativa dotata di poteri articolati per la salvaguardia dell'ordine legale, così come espresso in regolamenti, decisioni giuridiche e attività di corpi amministrativi, e un prerogative state, come quel sistema di governo, sono sempre parole di Frankl, quel sistema di governo che esercita un arbitrio illimitato ed una violenza non controllata da alcuna garanzia legale. Frankl però aggiunge, ed è un punto qualificante, che il prerogative state non è altro in ultima istanza che il potere ordinatore e discrezionale del governo, il Maschinenstaat, come sfera propria della politica che fin dallo Stato assoluto è ritenuto come esclusivo del sovrano e non assoggettabile a previo vincolo di legge. Quindi Frankl non tratta affatto il problema della coesistenza di una struttura di partito accanto a una struttura dello Stato, lo dice esplicitamente lui nella premessa. Non solo, ma Frankl dipende, perché cita continuamente, dalla lezione di Otto Hinze da un lato e di Carl Schmitt dall'altro, e quindi da una questione pre-fascista, pre-nazista. È dunque fondamentale notare che questa esigenza di decisione quotidiana su cui hanno fondato i loro poteri i fascismi è, ovviamente entro certi limiti, un dato strutturale della politica contemporanea, che i nuovi regimi si sono limitati a predicare come inefficiente prima di loro. Del resto, il prevalere ormai del decreto sulla legge come strumento di intervento regolatore della società era stato osservato da molte parti. Anzi, si parlava ormai, per usare una suggestiva immagine di Schmitt, di motorisierte Gesetzgebung. Si potrebbe inferire semplicemente da questo che i fascismi non ebbero bisogno in realtà di un grande sforzo rivoluzionario, avendo essi trovato già spianata la strada concettuale che portava all'esaltazione della capacità di decidere e della capacità di decidere in tempi rapidi. Tuttavia io ritengo che questa non sia che una faccia della medaglia. Infatti, parallelamente al dibattito sulla unificazione del comando, o meglio, Già che una reale pluralità di centri di comando, almeno in Germania ed in Italia, diversa sarebbe per esempio la storia della Francia, non si era precedentemente mai avuta, al dibattito sulla riduzione dei, dovrebbe riportarsi questo dibattito al dibattito sulla riduzione dei controlli e dei rallentamenti all'esercizio di questa unica possibilità di comando, che questo sì c'era stato, e questo era il dibattito che su che cosa poteva garantire che questo potere non fosse di natura assolutistica, che questo è il termine impiegato alla pubblicistica, cioè voglio chiarire, il dibattito era: la motorisierte Gesetzgebung esiste, non esistono diversi centri di comando, il problema è: esistono invece intralci che si possono mettere a questa decisione, come si può fare a eliminare questi intralci? In definitiva non si era trovata altra risposta pratica a questo quesito che ritenere che le difese contro tale rischio non potessero essere altro che di natura politica, quelle che, fortemente vincolando chi decideva alla realizzazione di un fine, rendevano il dittatore espressione di un progetto politico e non titolare di un diritto di sovranità in quanto persona. E in questo modo si sarebbe impedito il saldarsi della sovranità con la tirannide. È così che il partito astrattamente diventa un'istituzione politica doppiamente garante del carattere nuovo delle dittature fasciste, non solo basate su un consenso democratico, ma anche vincolate nell'esercizio del potere dal progetto metastorico di cui è portatore e interprete il partito, e dunque protette, in teoria, in astratto, per quello non è vero, protette da deviazioni personalistiche nel comando. Questo stesso carattere di fondamento teleologico posseduto dalla dittatura rimandava alla conservazione, accanto al potere di eccezione del governo politico, del potere di gestione della tradizionale burocrazia dello Stato, che non viene affatto eliminato. Nella visione dei fascismi, infatti, eccezione e norma convivono. La sfera della legalità non viene affatto abolita, ma solo circoscritta e in misura più o meno ampia, più o meno regolata poi nelle concrete esperienze. Anzi, si dovrebbe dire che la stessa sfera della eccezionalità viene legalizzata, questo secondo me è importante, in quanto all'origine della sua esistenza sta, in entrambi i regimi, un atto legislativo che la rende permanente e di conseguenza imponibile all'obbedienza dei cittadini. Ci sono infatti delle leggi che stabiliscono, in forma diversa e in relazione a contesti diversi, natura e vigenza di questi poteri eccezionali dei nuovi capi, cui si assomma, non è da dimenticare, il patrimonio dei poteri discrezionali che già per prassi detenevano i capi dei governi nei regimi precedenti come responsabili ultimi della burocrazia. Resta rilevante che tendenzialmente si continui a muoversi nell'ambito delle vecchie categorie dello Stato di diritto, anche se tanto in Italia quanto in Germania non mancano i giuristi engagé che si affannano in negazioni verbali di questa verità. Tuttavia, per molti ambiti, il cosiddetto superamento dei vecchi istituti del Reichstag non è più che una maschera di facciata, più di quanto non sia una innovazione reale. Ma il fatto che la legittimazione politica dell'autorità sorgesse ancora nonostante tutto dalla legge pone dei problemi, secondo me. È in quest'ambito, infatti, che si manifesta una delle radici di capacità di resistenza mantenute dalle vecchie strutture burocratiche. La centralità di questo tema non ha bisogno di essere sottolineata, tanto era nota agli stessi contemporanei. Anzi, fu proprio la forma partito fascista il contenitore di questo scontro. Da un lato, infatti, il partito si presentava come il cane da guardia dell'ortodossia politica e di conseguenza come l'EPI, promotore dell'epurazione dei vecchi ceti dirigenti. Ma dal lato opposto, il partito, con la sua capacità di assorbire e di rendere legalmente inoppugnabili le conversioni, è anche lo strumento della grande integrazione, la via per cui tutta una classe dirigente salva le sue posizioni di potere. C'è però un elemento contingente in questa vicenda che non può essere mortificato dall'analisi idealtipica. Una ragione principale della resistenza delle strutture statali tradizionali è data anche dalla consapevolezza nei gruppi dirigenti dell'NSDAP e del PNF che la loro intangibilità era un meccanismo che rafforzava la loro intangibilità, cioè la intangibilità di questi strumenti burocratici, era un meccanismo che rafforzava il loro potere, il potere cioè di questi ristrettissimi gruppi dirigenti, sia mettendolo al riparo dal residuo di discussione politica che nel partito pur sempre sopravviveva, mentre la democrazia era per sua natura esclusa dal meccanismo della discussione, sia anche innalzandolo, questo potere, per il meccanismo della legittimazione gerarchica, cioè essi in quanto capi di una gerarchia erano ancora più potenti, di una gerarchia burocratica statale. Anche in questo caso, infatti, non bisogna dimenticare il contesto di cultura borghese da cui emergono questi regimi, e per questo per questa cultura la posizione di servitore dello Stato, la posizione di pubblico funzionario, era uno dei vertici della scala sociale. Ciò spiega, ad esempio, perché anche il gruppo dirigente nazista, si pensi anche solo ai cosiddetti diadochi, non solo ambì quasi compattamente a posizioni dirigenti nell'ambito statale, ma fondò più su di esse che sul partito il proprio potere feudale, pur non negando che poi ci siano una complessa serie di interconnessioni fra questo potere di partito e questo potere feudale. Ciò vale naturalmente anche per livelli intermedi, anche se in Germania il sistema delle unioni personali nell'assegnazione delle cariche poté favorire un rapporto apparentemente più stretto tra amministrazione e partito di quanto non sia successo in Italia. Ma la corsa alle cariche di Reichstatthalter o di Oberpräsident da parte di Gauleiter e Kreisleiter sta a testimoniare che era avvertita l'esigenza di mostrare visivamente la traduzione del potere politico in potere amministrativo, anche perché in assenza di questi meccanismi di unione personale il potere politico finiva per non essere poi così sicuro. In Italia la situazione su questo punto è piuttosto diversa, perché diversa è la situazione costituzionale in cui il fascismo si inserisce. C'è anzitutto la ben nota questione della diarchia, cioè il permanere del re come capo dello Stato con una serie di decisivi poteri costituzionali. Può essere interessante sottolineare che alla fine più decisivo di tutti si rivela il potere più formale, cioè la nozione che in un regime monarchico i funzionari sono tutti funzionari del re, il che consentirà al personale fascistizzato una sorta di immaginata uscita di sicurezza dal regime. Un'uscita di sicurezza, ripeto, puramente immaginaria, perché solo Vittorio Emanuele III, Grandi e pochi altri potevano credere che le costituzioni non si corrompessero anche per usucapione e che invece fosse possibile in qualsiasi momento richiamare in vita i diritti che si erano lasciati decadere e calpestare. In secondo luogo bisogna però avere presente che fu il rifugiarsi nello statalismo che permise a Mussolini l'esercizio della dittatura anche verso il suo gruppo di sostegno. In Mussolini non vi fu infatti, a mio giudizio, alcuna coscienza del valore dello Stato. Le sue stentoree affermazioni a difesa di questo valore debbono solo essere tenute presenti alla luce dell'implicita premessa che lo Stato era lui. Le prove di questa affermazione sono, per chiunque abbia una minima conoscenza dei meccanismi giuridico-politici, innumerevoli. Non vi è alcuna istituzione fascista che si muova nell'ambito di un serio quadro legislativo. Non v'è potere che sia dotato di certezze di confini. Non v'è comportamento che abbia riguardo a non intaccare quell'immagine di sacralità delle istituzioni che è la base antropologica della loro normatività. Se si crea un organo come il Gran Consiglio, esso è privo di poteri e nelle mani del dittatore. Posso esemplificare ad abundanziam su questo punto. Le decisioni vengono continuamente fatte e disfatte e prese nelle sedi più diverse. I ministri ed i funzionari vengono cambiati continuamente senza alcun apprezzamento del valore simbolico che tutto questo comporta. Le osservazioni che si sono fatte, sommariamente me ne rendo conto, nel dibattito se volete possiamo approfondire, ci conducono però ad un altro nodo della nostra storia. Quanto si è visto sin qui conduce ad una riflessione cruciale sul ruolo dei partiti fascisti dopo la presa del potere e dunque sulla base stessa della loro capacità di aggregazione politica. Sin qui è sembrato di vedere infatti che il loro ruolo era stato quello di recettori, incarnatori di risposte alle domande poste dalla crisi politica dello Stato moderno. Ma si è anche visto che tutto ciò si era rivelato più che altro una estetizzazione della risposta. È una vecchia intuizione di Benjamin. Il fascismo rispondeva alle sfide mettendo in scena le medesime in funzione catartica. Sul piano istituzionale nessun problema aveva trovato una soluzione. La prova è, secondo me, nella non sopravvivenza, neppure in forma aggiustata, di alcuna delle invenzioni istituzionali dei fascismi, mentre ad essi sopravvissero, come legittimi, ma lo vedremo in chiusura, gran parte dei problemi politici che essi non tanto posero quanto legittimarono istituzionalmente. Detto questo, va però affrontato ancora il nodo della tenuta dei partiti, anche dopo la presa del potere. La questione è molto scottante in Italia, dove, l'ho ricordato anche ieri il mio collega Gentile, le voci su uno scioglimento del PNF durarono tutto il regime, venendo sempre però smentite dai fatti. Qualche voce in questa direzione si può, per la verità, registrare anche in Germania. Cito il libro di Helmut Nicolai, Der Staat in Nationalsozialistischen Weltbild, che ebbe peraltro breve fortuna, perché fu ritirato subito. Comunque la questione prescinde da questo dibattito, che potremmo definire di destra. Per noi, infatti, la ben più scottante questione riguarda il perché, nonostante la vuotezza della funzione liturgica, riassumo sotto questo termine quel che dicevo prima, i partiti fascisti siano riusciti a tenere compatta la propria struttura e a sopravvivere come istituzioni, cioè a farsi percepire fino all'estremo come centri di decisione Ed è infatti abbastanza impressionante notare come quasi tutti i congiurati del Gran Consiglio si siano chiesti, secondo le testimonianze concordi delle memorie, cosa penserà Scorza che rappresenta il partito. La spiegazione di tutto ciò va cercata, secondo me, in una funzione in cui il partito si pensava si sarebbe concentrato e in un'altra funzione che invece realmente svolse. La prima funzione è quella di selettore della nuova classe dirigente. Questo compito fu attribuito con molta solennità al PNF come all'NSDAP e del resto la vastità e la complessità delle rispettive organizzazioni giovanili si spiegano anche in quest'ottica. Del resto lo stesso compito di educazione del popolo, che era un altro compito assegnato, non era che una premessa a questo esito. Ora, anche in questo campo la forma partito dei fascismi rispondeva ad un problema acutamente percepito. Distrutti infatti i tradizionali canali sociali di dominio politico, messa in discussione dallo stesso evento della Prima Guerra Mondiale la legittimità del canale burocratico come momento selettivo, avversata l'idea che fosse il conflitto fra partiti a far emergere i migliori, ci si chiedeva come si sarebbe potuta restaurare una aristocrazia nazionale del comando, è un termine fascista ben noto, che tuttavia avesse i caratteri di un ceto aperto al merito. Non so se un simile dibattito sia esistito in Germania, però lo sviluppo delle SS fa per esempio pensare, secondo me, a un problema abbastanza simile. La risposta a questa domanda si era ovviamente pensato potesse fornire l'istituzione partito. Anche in questo caso si muoveva da un dato di fatto modesto. Il partito è di sua natura il distributore delle spoglie amministrative tra i suoi fedeli. Sono gli incentivi selettivi di cui parlano i politologi. Da qui la pretesa da parte del PNF e dell'NSDAP di avere per i vecchi combattenti i posti dirigenti dell'amministrazione statale che si era conquistata. Ma naturalmente per questo non ci si discostava dalla normale prassi dei partiti. Ciò che vi era di relativamente innovativo qui era la pretesa, inventata poi per resistere proprio alle pressioni dei vecchi combattenti, cioè per resistere alle pressioni, i gruppi dirigenti che volevano resistere alle pressioni dei vecchi combattenti, era che non più di distribuzione delle spoglie si trattasse, ma di un autentico disegno di selezione di una nuova classe dirigente. Dietro questo sta naturalmente la percezione dell'esigenza di una classe politica negli stati contemporanei, laddove non esisteva più una classe sociale unica che per ciò stesso fosse la classe politica. Ora, la resistenza che si opponeva alle pretese dei vecchi combattenti, o per dirla più ampiamente, dei gruppi della media dirigenza del partito, di occupare il maggior numero possibile di posti nella pubblica amministrazione, aveva nel nazismo e nel fascismo la stessa banale radice. I gruppi dirigenti nazionali, che per conto proprio questo potere statale lo avevano già occupato, erano perfettamente consapevoli che questi altri militanti non erano all'altezza delle loro pretese. Il mantenimento del consenso richiedeva efficienza al massimo possibile, dunque meglio contare sui vecchi professionisti della burocrazia, ogni qualvolta essi accettassero di obbedire al nuovo padrone e non fossero troppo compromessi con il servizio del vecchio, soprattutto come servizio, come resistenza alla vittoria fascista. Ma la opposizione a queste pretese dei vecchi combattenti doveva sposarsi con la finzione di accettare il principio. Il partito sarebbe stato il selettore unico della classe dirigente, solo che di quella del futuro. Questo portava con sé molti vantaggi, costituiva una spinta notevole all'incorporazione per tutti coloro che ambivano alle carriere pubbliche, consentiva di mettere alla prova le qualità dei futuri dirigenti in ambiti politicamente poco pericolosi, come è la burocrazia dell'organizzazione di massa, garantiva l'autocensura nel dibattito interno al partito per non mettere in gioco la possibilità di essere selezionati nella dirigenza pubblica. La questione che resta aperta è se si sia trattato di propaganda a cui non corrispondeva alcun reale mutamento nei criteri e nei meccanismi di selezione, o se realmente i partiti fascisti siano riusciti a produrre un mutamento, conquistando in questo campo una base di potere. Francamente non sono in grado di dare una risposta esaustiva a questo pur centrale quesito. Posso dire, per ciò che riguarda il fascismo, che la serie di leggi che rendevano obbligatoria la tessera per accedere agli impieghi pubblici di tutti i tipi funzionò effettivamente come meccanismo che allargava notevolmente i poteri di controllo sociale dei dirigenti periferici del PNF. Se è vero infatti che spesso ad evitare guai bastava una tessera con dietro una milizia del tutto passiva, è altrettanto vero che un cattivo stato di servizio nel partito pesava in negativo e che comunque i canali per segnalarsi erano controllati dal partito. Peraltro c'è un punto su cui vorrei richiamare l'attenzione. Una valutazione di questo potere di selezione è molto difficile, perché i fascismi operarono in un arco di tempo troppo breve perché questi meccanismi potessero assestarsi. Da un lato sopravviveva nei selettori pubblici una larga fascia di convertiti, quindi di persone che era legata a vecchi concetti. Dall'altro lato, in Italia questo processo non poté divenire istituzionale che dopo il consolidamento del decennale, mentre in Germania Hitler era appena giunto al potere quando c'era stato il decennale. Il che significa, secondo me, che tenendo conto dello scoppio della guerra che muterà inevitabilmente il quadro di funzionamento della pubblica amministrazione, stiamo giudicando un periodo di tempo che copre al massimo 8 anni, cioè un periodo insignificante per capire quanto e come questo meccanismo poteva giocare. Se questo punto dunque resta ancora aperto alla valutazione, c'è un altro aspetto sul quale mi pare sia possibile invece trovare una ragionevole spiegazione. Si tratta della questione dell'impressionante crescita quantitativa dei partiti fascisti. Finora si è molto insistito, non senza ragione, si capisce, sulla connessione tra il modello cosiddetto totalitario e la necessità di avere tutta la popolazione inquadrata. La tessera come elemento tendenzialmente uguale all'atto di nascita o al certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che è un altro strumento giuridico importante in un sistema suffragio universale, ha naturalmente una sua plausibilità in regimi che ritenevano di poter basare la propria stabilità sulla condivisione, sulla partecipazione pratica di un determinato sistema ideologico istituzionale. Sembra peraltro a me che vi sia anche un ulteriore aspetto su cui richiamare l'attenzione. Quella esclusione della vecchia militanza dalla spartizione delle spoglie politiche di cui abbiamo appena parlato, così come la necessità di governare quel che restava nello scarto di selezione di una classe dirigente, per quel tanto che ci fu, poneva indubbiamente dei problemi. Per banalizzare, non è che a questa gente si potesse semplicemente dire tornatevene a casa, non abbiamo più bisogno di voi. La mobilitazione sociale dei partiti richiedeva uomini diversi dalla pubblica amministrazione e a questi uomini bisognava pur dare delle ricompense. Ora, un partito burocraticamente complesso, ampio, con molte strutture parallele e controllate, creava quel mercato dei posti dirigenti con cui ricompensare la militanza, a suo modo preziosa, di chi peraltro non poteva assurgere all'Olimpo della funzione pubblica. Le dimensioni di questo fenomeno sono note per quel che riguarda la NSDAP. La commissione di denazificazione degli alleati alla fine della guerra aveva contato tra Führer e Unterführer ben 1,5 milioni di uomini. Per il PNF mancano stime di questo tipo, ma se noi compariamo le cariche previste nel primo statuto nuovo stile, quello del 1926, con le cariche previste nell'ultimo statuto del 1938, vediamo una crescita impressionante dei posti direttivi nell'ambito del partito. E da questi poi sono da aggiungere, nel caso del fascismo, i posti messi a disposizione nelle strutture esterne e parallele della società. Fenomeno importante in Germania, con l'introduzione del principio della cosiddetta Gleichschaltung, ma non certo secondario anche in Italia, dove si penserà soprattutto al settore corporativo. A questo punto deve però venire in gioco la questione centrale delle forme partito dei fascismi, cioè il problema del tutto particolare che esse presentavano quanto ai vertici. Questo problema va scisso, secondo me, in due aspetti. Uno, la posizione del capo, che è strutturalmente del tutto peculiare. Due, la posizione del ristretto gruppo dirigente iniziale e di intimi del capo. Qui non si può parlare da un punto di vista generale, perché un vero e proprio assetto strutturale di questa forma di governo non lo si ebbe, secondo me, né nel PNF né, mi pare, nell'NSDAP. La teorizzazione del Führerprinzip, infatti, non si tramuta mai in un reale istituto, perché gli mancheranno sempre i caratteri di conoscibilità giuridica generale, che naturalmente è una mancanza voluta, perché è la mancanza che serve a Hitler per continuare a fare il tiranno, anziché quello che si pretendeva fosse il Führer. Noi sappiamo infatti come fece Hitler a costruire quella sua posizione, ma se il Terzo Reich fosse davvero durato 1,000 anni, è stato ricordato anche negli altri giorni, non era affatto strutturato in modo da rendere pacifica ed automatica la successione dei capi. Per non parlare dell'assenza di tutti quegli strumenti per la verifica di quel che pure la teoria stata prevedeva, e cioè che il Führer potesse tradire la propria Gefolgschaft. Ricorderò poi infine l'assoluta inconsistenza del principio del Führerbefehl, legato quasi sempre a forme puramente orali e all'oscura manipolazione della cerchia degli interpreti, che è il secondo problema che noi di solito tralasciamo. Ancora più confusa si presenta la situazione per il fascismo. L'unica base di potere sicura era per Mussolini il suo status di primo ministro, che godeva, grazie alla legge del 1926, di un notevole rafforzamento dei poteri di direzione rispetto al resto del governo, che questo è il salto fondamentale, non tanto la possibilità di fare dei decreti che si tramutano in legge, quanto il fatto di diventare il capo del governo, che è una struttura che non esiste. Per il resto è un conflitto costituzionale, ma insomma questo, se volete, lo vediamo dopo. Per il resto, le leggi fasciste sono di una rudimentalità giuridica notevole. Il potere che Mussolini, come primo ministro, deteneva sul Gran Consiglio era ampio in maniera impressionante, ma alla fine egli scivolò sulla buccia di banana della dizione iniziale in sé inutile e insignificante, quale quella di supremo organo del regime. La sua posizione costituzionale rispetto al partito fu sempre molto incerta, è stato ricordato anche ieri, perché risolta o con l'escamotage dell'inserzione nello Stato, infelice perché il capo dello Stato era il re ed è quello su cui si basano poi i giuristi, diciamo, conservatori, o con il ricorso alla qualifica di duce che non riceveva sistemazione in alcun testo, per non dire, e che per dire il vero nessuno sapeva esattamente cosa significasse. Non si riuscì mai a stabilire con certezza di dove derivasse l'investitura per il governo, se dal re come nel governo costituzionale puro, se dal partito come nuovo sostituto del corpo elettorale, se dal Gran Consiglio come nuovo organo istituzionale interprete della volontà popolare. Anche questo è sostenuto dai giuristi. E badate, io parlo sempre di giuristi poco engagé, no? Cioè non parlo dei Costamagna, di questa gente qui, parlo dei Donato Donati, parlo di Santi Romano, via dicendo. Il dibattito dei giuristi italiani di questo periodo è molto interessante, se volete ci possiamo tornare. Quel che mi preme rilevare per ora è il carattere tirannico dei due poteri, cioè il loro fondarsi sulla manipolazione di strutture giuridiche di comando, che sono tradizionali, strutture che si tramutano in possesso personale e si continuano a detenere sulla base dell'esclusione violenta della possibilità esterna di controllo. Questa è la base formale di potere di questi regimi. È in quest'ambito che va trattata la questione dei compagni più vicini al capo, di coloro che, dopo averlo aiutato in maniera determinante a prendere il potere, hanno difficoltà a trovare collocazione in un sistema politico come quello di fascismo. Si tratta di un tema che possiamo ritrovare tanto nel fascismo che nel nazismo, anche se in forme e modi assai diversi. Anche in questo caso le tipologie astratte si fermano all'enunciazione del problema, esistenza in entrambi i regimi di un gruppo di collaboratori privilegiati della prima ora, che detengono per questo una posizione di particolare significato e un certo potere di controllo di fatto, anche se esso non ha traduzione sul piano istituzionale. E si ricoprono questa posizione in quanto persone e non in virtù di cariche istituzionali. Per questo che io, per similitudine con la storia religiosa, propongo di chiamare questo gruppo di persone come i cardinali del regime. Però le similitudini si fermano a queste enunciazioni. Per il resto, il gruppo dei 12 intimi di Hitler non aveva alcun luogo formale, nonostante il dibattito sul Senato delle camicie brune, di esercizio collettivo del proprio potere, ma in compenso aveva la possibilità di accaparrarsi i posti chiavi nell'amministrazione, veri e propri feudi, il cui esempio più eclatante è ovviamente quello di Himmler e delle SS. Richiamo qui, appena per accenno, tutto il dibattito sul carattere feudale del nazismo, sulla policrazia, su Hitler il dittatore debole, che comunque ci mostra come il Führerstaat sia stato più un mito che una realtà. Questo gruppo non era affatto privo di lotte intestine, si è parlato di un Biedockenkampf, ma aveva in ogni modo mantenuto la coesione derivante dall'unione nell'avventura politica, la cui messa in discussione non poteva che coincidere con la fine della propria fortuna personale. La rottura costituzionale rispetto a Weimar faceva sì che non vi fosse più possibilità di mediazione. Non è un caso, secondo me, che nel crollo del nazismo l'unico centro di potere sia rimasto l'esercito, cioè l'unica istituzione che aveva goduto di una certa continuità giuridica dall'impero fino al 1945. Con questo non voglio sostenere che la policrazia nazista sia da intenderci come un sistema di limiti ad Hitler, tiranno, fondamentalmente. Vorrei solo che non si cadesse in quella che per me è un'altra opposta semplificazione. L'ipotesi cioè che la detenzione del potere di legittimazione politico-costituzionale da parte del solo Hitler gli consentisse di poter realmente prescindere completamente dal consenso dei suoi cardinali. Più chiaramente, non è qui questione di chi sarebbe riuscito a vincitore in uno scontro a due tra Hitler e uno qualunque dei dialoghi, sarebbe riuscito a vincitore Hitler. È una questione se il tiranno avrebbe potuto realmente sbarazzarsi di tutto questo cospicuo gruppo dirigente. La domanda, secondo me, è legittima, non a partire dalle considerazioni che necessariamente sono astratte per quel che riguarda il nazismo, dove questo conflitto globale non ebbe luogo, ma a partire da quanto successe nel fascismo. Mussolini si trovava, dal punto di vista dei suoi cardinali, in una posizione molto più favorevole di quella di Hitler. Esistendo in Italia una diarchia di poteri, ed essendo il potere di Mussolini un potere ambiguo, derivato cioè sia dalla chiamata del re, fatto che ci si sforzò quando faceva comodo di mascherare, ma che era pure esistito, e derivato altresì dal suo ruolo di capo del movimento, capo del governo in quanto capo della rivoluzione fascista, vi erano problemi molto minori sul piano costituzionale all'accentramento decisionale burocratico e alla marginalizzazione dei contributi dei capi del regime, bastava giocare una volta sull'uno e una volta sull'altro tavolo. Non si dimentichi poi quanto detto più volte, essendo stata brevissima la fase di esistenza del PNF fuori del potere, un reale rapporto tra capi, quadri, movimento di massa non lo si era mai avuto. Ciò anche per la continua tensione cui il partito era stato sottoposto dal 1923 in avanti, con sconvolgimento nel panorama dei militanti e con l'abitudine non solo a cambiare continuamente segretari del PNF, mentre Hess, sia pure non, che non era il segretario perché è un'altra posizione, rimase in carica fin quasi alla fine, ma anche a mostrare che questa carica non tutelava in nessun modo, ne consentiva di guadagnare stabili posizioni personali. L'unica eccezione a questa regola è Farinacci, che Giuliati non è una eccezione reale, perché Giuliati è uno che da quando non è più segretario, vabbè, non viene eliminato come Turati in forma violenta, ma non conta più nulla, che fu però una eccezione non in quanto ex segretario, ma in quanto l'unico tra i cardinali ad avere assunto una significativa carica nel partito in un certo momento. Per il resto, il nucleo delle personalità del regime, Grandi, Bottai, Balbo, Federzoni, non legarono la loro carriera ad una presenza istituzionale nel partito. Si osserverà forse che noi stiamo dimenticando il Gran Consiglio, ma non è ovviamente così. Il Gran Consiglio è proprio ad un tempo il luogo di riconoscimento e di neutralizzazione di queste posizioni personali. Quello che verrà enfaticamente definito come organo supremo del regime è in realtà inventato da Mussolini come un organo a misura delle necessità del dittatore, per porre sul partito un'istanza di governo esterno, dandogli invece l'impressione di raggiungere l'ambito traguardo di controllare con principi politici l'attività del governo. Ma il Gran Consiglio non esiste come istituzione, non ha il potere di convocarsi, non ha controllo sui suoi membri, tutti sono nominati direttamente da Mussolini e da lui revocabili a discrezione. Per un solo anno, dal 1928 al 1929, c'è stata questa categoria dei membri inamovibili che poi è stata abolita nel 1929. Non può formare l'ordine del giorno il Gran Consiglio, non vota e via dicendo. Esiste invece come simbolo esterno, questo sì, come strumento per impedire il sorgere di altri centri decisionali o per censurare legittimamente le decisioni, come strumento di associazione al potere del tiranno dei suoi cardinali, in modo peraltro che questa associazione non sia per lui rischiosa. Naturalmente la percezione di tutto questo non è esplicita immediatamente, sicché il gruppo dirigente fascista può veramente pensarsi come associato al governo del dittatore. C'è da questo punto di vista, secondo me, un episodio rivelatore. Nelle memorie di Grandi è sostenuto che il fascismo divenne dittatura a partire dal 1932, è stato ripetuto anche qui, e che è da quella data che inizia la parabola discendente del regime. Ora, non c'è apparentemente nulla sul piano costituzionale che giustifichi questa affermazione. È già quel 1929 che la grande fase di fondazione del potere monocratico è finita. Invece nel 1932 c'è un episodio molto preciso, e per la verità nel frammento del diario di Grandi sul 25 luglio pubblicato da De Felice la questione è piuttosto chiara. Il 20 luglio 1932 venivano dimessi da ministri Grandi, Rocco, Bottai, Balbino Giuliano e Mosconi. Era l'appendice di una lotta di potere, quella come sappiamo oggi dallo studio di Michaelis, volta a tenere la successione del duce nell'ambito dei quadrumviri, auspici di questa operazione Balbo. Ma era anche l'inizio della dispersione dei vecchi capi, conclusa l'anno seguente con l'allontanamento dal governo dello stesso Balbo. E in questo quadro posso solo accennare alla parallela eliminazione di Arpino. È da questo momento che il governo diventa una cosa sempre più personale di Mussolini e che il Gran Consiglio perde progressivamente di rilievo, diventando un puro consiglio privato del tiranno. Eppure la crisi del 25 luglio si realizzerà proprio come una rivolta della vecchia guardia, come l'autoscioglimento del fascismo. Sul piano giuridico formale il valore dell'atto del Gran Consiglio del 25 luglio è nullo, e Biggini, che era un giurista, lo ricordò nel Gran Consiglio, e il colpo di Stato del re si realizza in un regime di completa ignoranza di qualsiasi principio giuridico, il che però naturalmente non meraviglia, perché erano 20 anni che si agiva nella completa agiuridicità. Ma sul piano politico l'atto è decisivo, perché il Gran Consiglio rappresenta il vertice del fascismo, l'assemblea dei veri capi del partito. Il tiranno non può sopravvivere al pronunciamento del suo gruppo dirigente, per la delegittimazione verso il sistema costituzionale sopravvissuto che ciò importa, cioè per l'impossibilità di continuare per questa via a mantenere la dittatura sulle fasce sociali e sui centri istituzionali allineati, ma non trasformati, come a ragione avevano sempre sostenuto i radicali. Sarebbe stato possibile questo nel nazismo? È una domanda complessa alla quale io non saprei rispondere in questa sede. Certo è che anche nel nazismo si ha una manifestazione di esistenza di un centro istituzionale in qualche modo autonomo col tentativo del 20 luglio dei generali. La questione che si pone a questo punto riguarda lo sfaldamento del complesso inquadramento sociale realizzato dai fascismi. Per tutto il potere politico, il fascismo non è difeso da nessuno, parlo del fascismo italiano, perché la caduta del sistema nazista è troppo differente, coincide con l'occupazione militare, la spartizione del paese, dicendo, non c'è possibilità di fare un paragone. Perché mai la realtà di massa, o se vogliamo usare un vecchio termine, il consenso, se ne sono andati in una notte? Non certo solo perché il cambiamento avviene sotto la guida di un'autorità legittima. Il discorso può forse valere per il grosso della popolazione fascistizzata superficialmente, ma le centinaia di quadri di un partito che non ha mai smesso di predicare la rivoluzione, come possono adattarsi senza resistenza alla caduta del regime? Devo dire che io non trovo convincente la spiegazione corrente che tutto questo rivelasse semplicemente l'essenza di vuota burocrazia del partito, l'evirazione politica del PNF ormai realizzata nel 1926. Tutto ciò ha una sua verità, ma secondo me vi è dell'altro. Il primo elemento da tenere presente è quello che l'antico diritto dei popoli avrebbe chiamato lo iudice umbelli. Il fascismo cade perché sta perdendo la guerra. Ora il regime ha promesso al paese di farlo un paese dominatore e di espanderlo internazionalmente. La perdita della guerra rivela la bruttezza del regime e scioglie dall'obbligazione politica, che è un'obbligazione contratta sulla base di questa ipotesi imperialistica. Il secondo elemento da tenere presente è l'effetto di ritorno del sistema di agiuridicità espresso dalla tirannide. I fascismi non hanno avuto alcuna capacità istituzionale, per questo sono stati regimi deboli. Cioè regimi deboli alla fine, non regimi deboli fin quando controllavano la violenza. Tolto il capo, e questo è il calcolo che hanno fatto anche i generali tedeschi, il colosso non ha potenza perché non ha capacità di reazione. Da questo punto di vista, la trasformazione della forma partito operato dai fascismi è quella di averla deistituzionalizzata, cioè di avere separato il livello della dirigenza da quello della militanza, togliendo a quest'ultimo ogni valenza costituzionale. Perciò il partito nei fascismi finisce ad avere la stessa rilevanza che il corpo elettorale ha nelle democrazie, soggetto giuridicamente fondamentale, detentore dei massimi poteri, ineliminabile senza manomettere la Costituzione, tutto questo è vero, ma al tempo stesso è un soggetto evanescente, incapace di volontà propria, perché chi è il corpo elettorale, chi mica lo si attiva da sé. Il terzo ed ultimo elemento, più in generale, riguarda il riflesso dello statalismo di cui i fascismi furono nominalmente i portatori. Voglio ricordare che della NSDAP, la legge 1 dicembre 1933, dice testualmente che se è di Trägerin des deutschen Staatsgedankes und mit dem Staat unlöslich verbunden. Chiunque ricorda il famoso tutto nello Stato di Mussolini. Ora, se si è sopra osservato che tutto questo non ha altro significato che quello di facilitare la fedeltà politica presentando il nuovo padrone come il successore del vecchio padrone legittimo, non si deve per questo dimenticare che essa consente poi anche il passaggio ulteriore, il trasferimento della fedeltà a qualsiasi ulteriore padrone che possa rivestirsi in qualche modo di questi panni della sua attualità. Non entro qui nel discorso pur importante su come poi questo meccanismo sia servito come formula di autoassoluzione collettiva fino a quasi a negare poi l'esistenza dei fascismi. Resta ora solo da esaminare brevemente se la vicenda costituzionale, finisco davvero, mi scuso della lunghezza, se la vicenda costituzionale dei fascismi abbia lasciato, in rapporto alla questione della forma partita, una sua eredità nel postfascismo. Siamo davanti a una questione spinosa, ma credo che qualcosa vada pur detto. In primo luogo va come minimo notato che le costituzioni postfasciste, pur negando recisamente il problema del partito unico e ogni opportunità che possa risorgere un regime dittatoriale, sono basate su partiti che rappresentano organizzazioni parzialmente, sottolineo parzialmente, simili ai modelli fascisti. Non sto facendo un discorso moralistico, per carità, né svalutativo dell'esperienza democratica. Voglio solo registrare qualche dato. Per esempio, che l'idea che lo snodo della fedeltà politica passi per la mediazione legittimante del partito è oggi generalmente accettato, con il solo limite del pluralismo e della competizione tra i partiti come garanzia antitirannica. Si potrebbe quasi dire, forzando un po' i termini, che all'idea di una fedeltà politica allo Stato, in quanto esso sia la sede di promozione dell'interesse generale, si è sostituita l'idea che la fedeltà politica allo Stato si fondi sul suo essere garante della istituzionalizzazione delle fedi politiche. Va però aggiunto che forse questo era più una fase propria dell'immediato postfascismo, cioè fino alla metà degli anni 60, mentre in seguito è piuttosto prevalso il ritorno a quell'altra trasformazione della forma partito introdotta dai fascismi, per cui i partiti si diventano strutture a tre livelli. Un livello ammesso alla dirigenza del partito in virtù dell'inserimento nella classe dirigente pubblica, l'inserimento o attuale o prossimo futuro. Un livello di dirigenza che realizza la propria autoaffermazione nella gestione interna dei partiti, i cui statuti contemplano livelli di articolazione sempre più complessa e possibilità di posti dirigenti sempre più influenti, benché formalmente del tutto estranei alla pubblica amministrazione. in che in pratica realizza un meccanismo tipico dei fascismi, pur nel divieto di qualsiasi identificazione fra partiti di statualità. Infine, un ultimo largo livello di militanza passiva e del tutto ininfluente sulla direzione e sull'elaborazione delle strategie politiche, ma premiata da una sorta di legittimazione a partecipare all'inserimento nella struttura pubblica, fino a quell'aggravante corrotta che è la spartizione dei posti pubblici secondo le fedeltà di partito. Insomma, secondo me è abbastanza divertente osservare, se mi consentite una conclusione un poco a punta, come il risultato dei partiti fascisti, i cosiddetti restauratori dello Stato, sia consistito nell'aver portato i partiti al dominio dello Stato, e quello dei partiti antifascisti, restauratori della democrazia, sia consistito nell'aver confermato il ruolo dell'ideologia come fondamento del diritto politico. Grazie. Ieracci, senz'altro, lei ha la parola. Lei ha la parola. Ah, volevo chiedere un riferimento, Riccardo, professor Pomeni. Un riferimento alla prima parte della sua relazione, dove il professor analizza la diversa forma partito del socialismo, del socialismo italiano e quale fascismo. Ora io credo che però sia essenziale distinguere la fase precedente alla tradizione del regime fascista a quella successiva. E mi pare che in sostanza il partito fascista assorbe elementi che sono già del partito socialista, ma a mio pare questo riguarda più il periodo successivo alla costituzione del regime che invece il periodo precedente. Invece mi pare importante, significativa, il modello proposto per esempio da Schleiermacher del catch all party per definire il fascismo nel periodo precedente del regime. Cioè, mi pare che mentre il Partito Socialista sia ancora un partito di integrazione di massa, secondo la nota forma dello Stato dentro lo Stato, quindi con tesseramento, quindi con reclutamento di base molto efficace, diffuso sul territorio, diciamo al nord, il Partito Fascista nel periodo precedente, la costituzione del regime, non presenta questi caratteri. Cioè mantiene piuttosto quelli del catch all party, secondo la definizione di Schleiermacher, cioè il partito che non ha un reclutamento di base, molto un reclutamento di base per dire istituzionalizzato, ma piuttosto si fa piuttosto un political appeal che rivolta a tutti gli strati sociali indifferentemente. Ecco, questo volevo chiedere un chiarimento su questo punto. Rispondiamo subito. Come vuole lei? Forse su questo punto che è specifico posso rispondere rapidamente, perché può essere nato un equivoco. Cioè, io quando parlo di assunzione di elementi socialisti sto parlando di un problema strutturale, non di un problema ideologico. Cioè, cosa intendo per assunzione di elementi socialisti? Il fatto che il partito sia organizzato ponendo il congresso come base del potere. No. Questo a prescindere dal problema se sia un cultural party ideologicamente integrato o meno, cioè il modello istituzionale del partito, il modello istituzionale di un partito che pone il congresso di partito come base del potere è un modello che è stato non inventato, perché farò subito un esempio di non invenzione, ma che è stato istituzionalizzato e imposto dal Partito Socialista, e l'idea che il congresso nazionale sia la sede del potere. È stato imposto dai partiti socialisti per il loro carattere di, come ha scritto Nestor, inheritor parties, cioè di partiti esterni rispetto allo Stato, di Stato nello Stato, perché così come il corpo elettorale, cioè la rappresentanza di tutti, o il Parlamento, se volete, come espressione del corpo elettorale, è la base del potere nello Stato politico, così nell'organizzazione politica il congresso è la base del potere. Non è di per sé un modello esclusivamente o strettamente socialista, perché già l'organizzazione della National Liberal Federation di Joseph Chamberlain nel 1878 si basa su questo specifico parallelo. No, il famoso articolo sulla Formality Review, A New Political Organization, sostiene espressamente questo. Cioè, nello Stato non esiste il governo generalizzato, nel partito può esistere. Questo si rifà, adesso non posso entrare nei dettagli, al fatto che Chamberlain è da tradizione radicale e via dicendo. Ecco. Quindi io parlavo esclusivamente da questo punto di vista dell'assunzione del modello socialista, da altri punti di vista ci sono molte altre questioni che potrebbero venire introdotte. Io vorrei però aggiungere che quanto alla diffusione capillare del partito fascista, di tesserati proprio, il partito fascista aveva nel giugno del 21, cioè all'indomani delle elezioni, dove ebbe solo 35 deputati più 10, 45 con i nazionalisti, aveva 187.000 iscritti. Se noi pensiamo che il Partito Socialista Italiano, al culmine della sua massima espansione, cioè esattamente un anno prima, aveva avuto solo 220.000 iscritti, cifra che per esempio nel giugno del 22 il Partito Fascista avrà già largamente superato, vediamo che fu una diffusione, una mobilitazione di iscritti su base massiccia più o meno paragonabile al Partito Socialista. Inoltre, questa idea che è caratteristica dei partiti socialisti, che gli iscritti devono essere dei militanti, perché per esempio il Partito Popolare Italiano, io adesso non ho le cifre, ma sicuramente ebbe subito un grosso numero di iscritti, fu un grande successo, però non c'era questa militanza, c'erano dei militanti però si abbasavano ancora largamente sulle parrocchie. Certo, su una militanza secondo livello. Quindi su una militanza istituzionale, sì. di cose che esistevano nella società italiana ben prima del partito. Invece l'idea della militanza, che è una idea tipica dei partiti socialisti, che li caratterizza da tutti gli altri partiti preesistenti, tolto il partito repubblicano, mazziniano, ma quello era un piccolo partito. Forte soprattutto in qualche provincia, Partito Socialista, se si iscriveva uno avrebbe dovuto essere, non è che lo fosse, militante anche del Partito Fascista o ancora prima nei fasci di combattimento, se uno si iscriveva si poneva che fosse militante, o allora nel Partito Fascista addirittura la militanza era largamente una militanza armata, ma anche questo era solo uno sviluppo di queste idee. La parola al professor Bracher. Da eine kurze Bemerkung machen zuerst zu dem Begriff Catch-all-Party, der ist ja von Kirchheimer eingeführt worden in den 50er, 60er Jahren. Im Grunde genommen geht es hier um die Frage einer Überwindung der Klassenparteien. Und das ist ein Thema, das schon in den 20er Jahren allgemein diskutiert wird. Und es gibt ja neu aufgelegt das Buch Büchlein von Sigmund Neumann, ich habe ihn schon erwähnt, über Parteien in der Weimarer Republik. Das ist schon 1932 erschienen, 1931 geschrieben und immer noch sehr lesenswert. Und der führt hier ein den Begriff totalitäre Integrationspartei. Dieser Begriff scheint mir besser zu sein als Catch-all-Party, obwohl Catch-all-Party ist auch ein Begriff, mit dem man arbeiten kann, mehr von der soziologischen Seite. Aber in der Tat die Intention, zunächst einmal die Intention und dann die Realität. Funktion, ja. Unterscheidet sich dazwischen. Ja. Die Intention der Nationalsozialistischen Partei war von Anfang an, eine Integrationspartei zu sein, Überwindung der Klassenpartei, Überwindung des bisherigen Parteiensystems, diesen Anspruch, der dann auch terminologisch erhärtet wird, zum Beispiel Begriff des Arbeiters, darüber wird Herr Hinz noch etwas sagen, der Arbeiter ist nicht mehr der Arbeiter der proletarischen Partei, sondern alle sind Arbeiter, ja? Integration, alle sind Arbeiter, Arbeiter der Faust und Arbeiter der Stirn und so weiter. Also dieser Gedanke spielt eine große Rolle und er hat eine enorme Anziehungskraft im Sinne des Nationalsozialismus, parteineuen Typus. Und hier scheint mir wichtig zu sein, zu dem, was Herr Pombeni gesagt hat, dass in der Tat ja die Nationalsozialistische Partei 13 Jahre Zeit hat oder 14 Jahre, um sich zu entwickeln, durch verschiedene Stufen. Sie ist fertig sozusagen, 1930, 31 wird sie zur Massenpartei und dann ist sie eine fertige Massenpartei, sehr stark ausgebaut, organisiert, manche nennen sie auch einen Schatten, einen Schattenstaat, die Partei hat verschiedene Abteilungen, die entsprechen einer Regierung. Ja? Sie hat eine Fülle von Hilfsorganisationen. Und das kann alles 1933 bei der Machtergreifung sofort zur Aufnahme der neuen Mitglieder und zur Gleichschaltung, sozialen, politischen Gleichschaltung verwendet werden. Darin scheint mir ein grundlegender Unterschied zu liegen zur faschistischen Partei, die nicht fertig war, die eigentlich noch gar keine richtige Partei war, wenn ich es richtig sehe, sondern mehr eine Kampforganisation. Die NSDAP war auch eine Kampforganisation, aber sie war auch eine Massenpartei. Da waren viele drin, die nicht gekämpft haben, ja, sondern nur organisiert waren im Sinne der Gleichschaltung. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Es gab kein Problem in Deutschland, was soll aus der Partei werden, wie in Italien. Nicht wahr? Sondern es war ganz selbstverständlich, dass die Partei, das war die Partei Hitlers, das war die Partei, die dazu eingesetzt wurde, um die Gleichschaltung sowohl politisch wie auch psychologisch, geistig, nicht wahr, voll durchzuführen. Es gab gewiss, das haben Sie erwähnt, dann das Gesetz zur Einheit von Partei und Staat im Dezember 1933. Aber das hatte keine große Bedeutung im Grunde genommen, denn die Realität war eine ganz andere. In Deutschland war nicht die Partei das Problem, sondern in Deutschland war die Entwicklung des SS-Staats schon ab 1934-35 angelegt in der Vereinigung von SS und Polizei. Das war die neue Realität, das war die revolutionäre, die totalitäre Realität. Während die Partei als Organisation die Spannung zwischen Partei und Staat, die Frage des Verhältnisses von Partei, Bewegung, Staat, zwar diskutiert wurde und Leute wie Carl Schmitt sehr stark beschäftigt haben, aber nicht das eigentliche Problem darstellte. SA und Staat. SA und Staat wurde gelöst 1934. Ne? Und zwar, das war die Lösung von 1934, die Säuberung von 1934, Röhm, ja, und so weiter, wurde ja benutzt, um auch politische Gegner zu beseitigen, sozusagen Hitlers Matteotti-Affäre, aber sehr viel erfolgreicher durchgeführt. Und es nützte dann ja auch, diente dazu, um die Armee voll zu integrieren. Also das Interessenbündnis zwischen zwei Säulen, aber die Armee als Säule war nicht vergleichbar mit Italien, nicht war nicht ein wirklicher Machtfaktor. Bis 38. Nun ja, aber alle, die Armeeführung, alle Offiziere standen hinter diesem Bündnis, hinter dem Interessenbündnis. Auch die späteren Widerstandskämpfer, auch Beck, Tresco und so weiter, alle, die später im Widerstand eine Rolle gespielt haben, haben bis 1938 waren sie auf der Seite des Regimes, oder jedenfalls waren sie keine, fühlten sich nicht als Konkurrent, nicht als eine Doppelmacht. Waren sie Parteimitglieder? Sie waren nicht Parteimitglieder, die Armee war unpolitisch, die Armee war der einzige Waffenträger der Nation, nicht wahr? Der einzige Waffenträger der Nation, so haben sie gewonnen, nicht wahr? Sie war da, nicht wahr, um die Machtpolitik des Dritten Reiches zu unterstützen. Aber sie war kein Rivale, nicht wahr? Es gab keinen inneren Machtkampf in einer irgendwie vergleichbaren Art, nicht wahr, als Präsenz sozusagen einer weiteren Macht. Die war nicht eine weitere Macht, die präsent war. Dritter Punkt, den ich kurz erwähnen wollte. Es gab also diese ganze Frage, tutto nello Stato, niente fuori dello Stato. Fuori dello Stato und so weiter. Diese Problematik ist in Deutschland gar nicht in dieser Weise aufweisbar. Und zwar einfach deswegen, weil der Staat von Hitler von Anfang an, das war auch durchaus klar und bekannt, war nur ein Instrument zur Durchführung, nicht wahr, politischer Ziele, die weit über den Staat hinausgingen und die dann angesiedelt waren, vor allem in der Entwicklung des SS-Staats. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Und das dritte schließlich ist natürlich das Führerprinzip, was Herr Pombeni sehr ausführlich auch erwähnt hat. Er schreibt hier due Typologie non coincidente, also Deutsche und Führer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kann das nicht so beurteilen, ob der Begriff des Deutsche so verschieden ist von dem Begriff des Führers. Aber es ist eines sicher, das Führerprinzip als Grundprinzip des Dritten Reiches, als eine quasi neue Legalität oder neue Ordnungsform, das Führerprinzip, war von Anfang an von Hitler und von der NSDAP als ein solches Grundprinzip des Dritten Reiches ja verkündet worden. Hitler schon in Mein Kampf sagte eher nicht wahr. Also politische Ordnung, die politische Struktur wird bestimmt dadurch, dass Autorität von oben kommt, ja, die Autorität von oben und die Treue oder die Loyalität von unten. Ja, das ist also Autorität von oben, Loyalität von unten. Das ist das Grundprinzip. Und es wird also von oben nach unten werden die Führer eingesetzt. Es gibt eine Inflation von Führern, nicht wahr? Aber das Führerprinzip als solches wird nicht in Frage gestellt. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist falsch oder es ist mindestens übertrieben, wenn man glaubt, etwa jetzt in Anlehnung an den Begriff des Doppelstaats von Frenkel, den ich ja nun sehr genau kenne und mit dem ich viel darüber diskutiert habe, gekannt habe, annimmt, dass das Dritte Reich tatsächlich ein Doppelstaat war. Es gab gewisse Tendenzen, es gab Hoffnungen, Illusionen in dieser Hinsicht. Aber als stärker erwies sich ja im Endeffekt natürlich der Nebenstaat, der zum Hauptstaat wurde. Das Gerichtswesen funktionierte, der Staat funktionierte, aber überall dort, wo der Wille des Führers, wo die nationalistische Ideologie abwich, ja, von den traditionellen staatlichen und rechtlichen Normen, galt nur dieser Wille. Die Leute wurden verurteilt oder sogar freigesprochen, nehmen wir mal Niemöller wurde freigesprochen vor dem Gericht und kam ins Konzentrationslager. Nicht wahr? Also die Doppelstaatlichkeit war nur erscheinbar. Sie diente zur Beruhigung, sie diente zur Gleichschaltung, sie diente zur Legalisierung des Systems, aber die Realität des Systems war eine ganz andere. Insofern darf ich wiederholen, was ich schon gesagt habe, gestern oder vorgestern. Der nationalsozialistische Rechtsstaat, von dem Carl Schmitt spricht, war eine Chimäre letztlich. Er hat sich selbst ja dann auch davon überzeugt, dass das kein Rechtsstaat war, sondern es war tatsächlich so, dass der Staat, wie Buchheim das etwas zugespitzt gesagt hat, das totalitäre System war ein System, in dem der Staat nur noch eine instrumentale Funktion, begrenzte Funktion hatte, und der Wille des Führers, die ideologischen Grundprinzipien und das Führerprinzip als solches das eigentliche Grundgesetz dieses Staates war. Dann machte es auch gar nichts mehr aus, dass die Weimarer Verfassung weiter galt. Hitler ließ sich sogar die Ausnahmevollmachten immer wieder verlängern. Ja, es wurde also immer wieder legalistisch operiert. Noch 1943 wird die Ausnahmevollmacht Hitlers verlängert, die er zuerst durch das Ermächtigungsgesetz von 1933 bekommen hat. Also sozusagen der Reichstagsbrand, der spielt immer noch eine gewisse Rolle, die Rechtfertigung der Diktatur durch den Reichstagsbrand spielt auch 1943. Aber das sind alles äußerliche, legalistische Fassaden und Strukturen. Ich glaube, es war viel klarer, konsequenter, eindeutiger, dieses Grundgesetz des Dritten Reiches, die Geltung dieses Grundgesetzes. Es gab keine rivalisierenden Instanzen. Die Armee war keine rivalisierende Instanz. Die Kirche war nicht, einen König gab es nicht. Hitler war Führer und Reichskanzler, er war Oberhaupt und Regierungschef. Und insofern, glaube ich, ist der totalitäre Charakter des Nationalsozialismus und auch der grundlegende Unterschied natürlich zum Faschismus, muss immer wieder festgehalten werden, obwohl es natürlich eine Menge praktische Überreste, wenn man so will, auch ein Fortfunktionieren des traditionellen Staates gab, ein Weiterfunktionieren, wie gesagt, sogar der Weimarer Verfassung und am Schluss, wie ich ja auch schon gesagt habe, zu aller Erstaunen, nicht der Göring wird der Nachfolger Hitlers, sondern plötzlich wird wieder ein Reichskanzler eingesetzt und plötzlich gibt es sogar wieder einen Reichspräsidenten, ja, nicht wahr? Dann entdecken alle, ja, da gibt es ja offenbar noch die Weimarer Verfassung oder so etwas ähnliches, Schwerin, Krosigk, nicht wahr, und Dönitz. Und insofern verläuft auch das Ende des Dritten Reiches völlig anders als das. Es gab natürlich auch kein Judicium Belli, nicht wahr? Es gab kein Judicium Belli, sondern nur den totalen Zusammenbruch. Das wollte ich doch noch zur Ergänzung sagen. Ich würde deshalb Herr Pombeni auch sagen, also bei aller Sympathie, ich stimme mit den meisten überein, was Sie gesagt haben, aber ich würde aus diesem Grunde nicht vom deutschen Faschismus sprechen, weil ich glaube, es ist eine Irreführung, das verwischt diese grundlegenden Unterschiede zwischen dem faschistischen System, der faschistischen Partei, auch der faschistischen Ideologie, wie wir gesehen haben, und der totalitären nationalsozialistischen Realität, aber auch Idee bestehen. C'è bisogno di una traduzione? Non c'è bisogno. Come? In due parole allora, professor Bracher ha messo in rilievo che una delle caratteristiche per la Germania, per esempio del partito nazista, che è un partito che comprende tutti, ma nel senso che considera ormai tutti come operai, e non solo gli operai manuali, non solo gli operai di fabbrica, nel che evidentemente aggiungo io ci fu una certa preveggenza, cioè vedevano che c'era un mutamento strutturale, psicologico della stessa classe operaia di cui adesso leggiamo gli ultimi sviluppi. La seconda considerazione che faceva, che a differenza dell'Italia, per cui lui non parlerebbe di fascismo tedesco ma sempre di nazionalsocialismo, lo Stato tedesco sì, funzionava formalmente come funzionava lo Stato italiano, ma gli si soprappose un secondo Stato, anzi lo subordinò al punto che non è giusto parlare di dualità di potere, perché il secondo Stato, lo Stato delle SS, diventò molto più importante, non il partito come talvolta si dice che in Germania il partito era sopra lo Stato, no, il partito no, ma lo Stato delle SS, della polizia segreta che obbediva poi a Himmler e a Hitler, era totalmente preminente rispetto al tutto il resto. Poi naturalmente c'era il Führerprinzip, che l'autorità viene dall'alto, il consenso nel senso però di fedeltà, di consenso proprio, cioè di approvazione, non di partecipazione, sì. Critica, viene dal basso. Qui io porrei un problema, naturalmente questo Führerprinzip, ich werde es deutsch sagen, weil Sie können darauf antworten, Führerprinzip, wir hatten es natürlich auch im Faschismus, Duce, e poi i gerarchi, soltanto la differenza mi sembra che i gerarchi qui contavano relativamente poco, no, erano molto importanti per certe cose, ma in fondo propaganda. No, non solo per la propaganda, ma proprio per quello che diceva il professor Pombeni, cioè per la spartizione dei posti, sì. Contavano molto, però le assunzioni, per esempio, secondo la tessera, l'anzianità, i meriti di partito, le facevano i gerarchi, certo. Questo era loro cura, però naturalmente i prefetti, che non erano certo in base a un principio democratico, al contrario, un principio ancora più autoritario, semmai i gerarchi avevano più contatto con la massa, con la base, dipendendo da Mussolini erano più importanti. Volevo chiedere al professor Bracher se i Führer locali, ob die lokalen Führer in Deutschland, hatten wir sie wirkliche Macht oder nur wie die Gerarchie eine teilweise hatten sie Macht? Die meiste Macht hatten die Gauleiter. Die Gauleiter, das waren... also die lokale Führer. Ja, lokal, regional. Regionale Führer. Regionale Führer. Ja, die hatten eine eigene Macht, das waren auch meistens alte Kämpfer. Ja. Die hatten sozusagen eine traditionelle Macht. Ja? Hatten sie eine größere Macht wie der Staatsapparat? Sie hatten ja die Staatsapparat. Die waren vielfach gleichzeitig Reichsstatthalter. Oberpräsident. Ich wollte vielleicht noch eine Bemerkung machen zum Führer. Prinzip, glaube ich, die wichtige ist, das Prinzip, das offen oder insgeheim jedenfalls anerkannt war, dass der Führerwille, der Führerbefehl das höchste Gesetz ist. Ja. Hitler hat 1934 nach dem Blutbad Rom, hat er erklärt, ich bin der höchste Gerichtsherr. Ja, ich bin der höchste Gerichtsherr. Und das wurde ihm bestätigt von Juristen. Karl Schmidt ist schon genannt worden. Karl Schmidt hat gleich nach dem 30. Juni 1934 einen Artikel geschrieben, der wurde veröffentlicht in der Deutschen Juristenzeitung. Und der hieß, der Führer schützt das Recht. Und in diesem Artikel ist das klar gesagt, was dann später die Realität wird. Jeder Führerbefehl geht jedem anderen juristischen, rechtlichen und sonstigen Prinzip vor, nicht wahr? Und das macht natürlich auch die Unsicherheit des Dritten Reiches aus. Es wird ja heute darüber diskutiert, gab es einen Führerbefehl zum Holocaust oder gab es keinen? Ja? Ja. Wir haben keinen gefunden. Ja? Aber die Diskussion zwischen Irving und Rorschach und anderen, ich war, geht darum, ich war, gab es einen Führerbefehl oder nicht. Das war die höchste Realität. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit dem faschistischen Staat, wo ja doch teilweise jedenfalls die Rechtsstrukturen und die Staatsstrukturen fortdauern und mit dem König ja eine Institution vorhanden ist, die, wie wir gesehen haben, 1943 dann auch handeln kann. Das gab es im Dritten Reich nicht. Dunque, Professor Schieder, e dopo, scusi, il suo riverito nome, non lei aveva chiesto la parola. Sì, Krüger. Come? Krüger. Conte. Krüger e Conte. Come? Krüger, Conte e? Professor Lille, anche tu hai chiesto? Professor Conte ho messo, Krüger, Conte, Lille. E Corni. Come? Corni. E? Corni. Corni. Ecco, allora intanto Professor Schieder. Ja, ich möchte einiges aufnehmen, was er nachher gesagt hat, und das einiges verstärken, aber einige Akzente doch ganz anders setzen, weil ich eigentlich den Vortrag von Professor Pompeni doch so sehe, dass er ein sehr interessanter Beitrag dazu ist, dass eben das doch tragbar zu sein scheint von einem gemeinsamen Begriff oder historischen Realität des Faschismus auszugehen, was nicht heißt, dass nun, das ist ja mein Missverständnis, glaube ich, dass nun alles gleich sein muss in Deutschland und Italien, das natürlich überhaupt gar nicht, und ich würde eben so weit gehen zu sagen, dass die Entwicklung des Regimes in Italien und in Deutschland seit der endgültigen Machtstabilisierung eben auseinanderging und dass aus dem deutschen Faschismus ein totalitärer Faschismus geworden ist, aus dem italienischen nicht. Ich glaube, das ist durchaus auch eine Diskussionsbasis, auf der man sich treffen kann. Dabei muss man natürlich sehen, dass die unterschiedlichen Zeiten und Verläufe der Machtergreifung miteinander erstmal in Beziehung gesetzt werden müssen. Das heißt also etwa bis 1929 eine Phase der langen Machtdurchsetzung in Italien verläuft. In Deutschland ist das ein Jahr bis 1934. Haben sich aber nie Faschisten genannt. Doch, doch, einige haben es auch schon gemacht. Haben das als Forbes gibt viel, ich habe viele Hinweise dahin, die haben das schon gemacht. Sie haben praktisch, ich will einige Punkte jetzt gleich nennen, praktische Nachahmung ja doch an einzelnen Punkten betrieben. Insofern ist es ganz, ich glaube, dass es deshalb einfach wichtig ist, dass die Partei, die ja ein wichtiger Faktor dieses ganzen Vorgangs ist, in beiden Fällen auch deshalb untersucht werden muss, in der Richtung, die es Herr Pompeni gemacht hat. Und dass sozusagen die Erklärung der jeweiligen Machtergreifung aus dem Vergleich jeweils enorm gewinnt, auch sozusagen auch von Hitlers Machtergreifung. Und insofern, ich darf auch keine, wie soll ich sagen, Berührungsangst habe, nur von Faschismus zu sprechen, dass ich ja so glaube, glaube ich, gefeit gegenüber den Verballhornungen der marxistisch-leninistischen Faschismustheorie. Ich will vier Punkte erwähnen, es ging sehr schnell, ich habe nicht alles gleich noch aufnehmen können, die mir interessant scheinen. Zunächst einmal die Frage der Massenpartei, Massenpartei, die die Faschisten und die Nazis, die Deutschen und die italienischen Faschisten von den Sozialisten gelernt haben. Ich glaube, dass es nicht nur die Sozialisten sind, sondern auch die Kommunisten und dass hier das Problem und das Dilemma beider Parteien liegt, dass sie einerseits Massenpartei sein wollten, wie die sozialistische Partei, andererseits Eliten- und Kaderpartei, wie die kommunistische Partei. Und dass dieses Dilemma durch beide Parteien durchgeht, etwa ablesbar daran, dass man einmal die Türen aufmacht, alle sollen hereinkommen und dann wieder schließt. Mit 33 die ganzen Märzgefallenen, in Italien ist genau dasselbe, auf und zu die Türen. Man ist nicht eindeutig nur Massenpartei, glaube ich, sondern der will ja auch immer Elitenpartei sein. In Deutschland ist das im Grunde dann gelöst, so sehe ich es, dadurch, dass eben der SS-Staat sozusagen das Elitenkadermodell ist und die ganze... Ja, und man kann Mitglied in vielen Organisationen. Und die ganzen vielen Organisationen ist sozusagen die Massenpartei. Man hat aber zwei Parteitypen nebeneinander. Im Prinzip ist das in Italien im gewissen Sinne ähnlich gewesen, es ist nie so gut gelöst worden. Man hat es sozusagen nicht geschafft, aus diesem Dilemma ganz herauszukommen. Immer wieder hat man davon gesprochen, das immer wieder diskutiert, das ist ja eines der großen Themen, auch in den 30er Jahren noch. Das zweite ist, dass das Führerprinzip, das ist eben allerdings jetzt schon gesagt worden, Herr Pombeni, Sie sagen, es sei nicht notwendig gewesen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig für die faschistischen Parteien, wenn ich das richtig verstanden habe. Non è stato necessario proprio per le due partite il principio della Führerpartei. Lei ha detto, ha capito bene? No. Ma io credo che sia necessario proprio perché per la machtergreifung di Hitler e Mussolini nell'interno del partito c'è stato necessario per tutte le due. Ah, poi... Sì, ma non so, forse non ho capito bene. Das dritte ist, dass Sie auf Seite 14 auch sagen, dass das Blockprinzip, i blocchi nazionali delle elezioni del 21, non siano state necessarie in Germania, perché il partito nazista avrebbe avuto questa esperienza delle elezioni e delle lotte alle elezioni per quasi 10 anni, un po' di più. Ma anche in Germania c'è stata necessaria. Habsburg. E la Habsburger Front e anche nell'ultima elezione del marzo del 33 abbiamo avuto necessario questo principio del blocco con i cosiddetti fiancheggiatori pure con i conservatori. Sì, perché da solo non aveva la maggioranza. Ecco, anche qui si vede che questo partito rivoluzionario in questa via è stato forzato proprio di avere questa coalizione con il con il PAM. E si può vedere anche qui che Hitler questo ha imparato, vorrei dire. E ha operato anche tramite Mussolini, perché ci sono stati contatti nel 1931 proprio tra Mussolini e Hitler, nei quali le lettere del famoso maggiore Lenzetti, proprio il principio della Habsburger Front è stato nel centro, anche con Stalin, naturalmente, perché Mussolini in questo momento ha sopravvalutato la potenza dello Stalin, molto sopravvalutato. Allora anche qui io vedo nel processo della machtergreifung una vicinanza dei due movimenti, partiti, prima della machtergreifung in Italien, in Deutschland. Ein vierter Punkt ist, dass... Mi scusa. No, ich kann verstehen, wenn Sie lange sprechen. Anche per me è difficile. Nein, ich spreche Sie ruhig Deutsch. Ich glaube, dass der soziale Aspekt der beiden Bewegungen, Parteien von Ihnen auch in Ihrem Buch vielleicht nicht genug gesehen wird, weil Sie sehr stark auf den konstitutionellen Verfassungsaspekt, juristischen Aspekt abheben. Herr Bracher hat das eben auch schon gesagt, dass das ja auch in den 20er Jahren diskutiert wird. Es wird bei uns ja auch mehr diskutiert. In Italien viel zu wenig. Der Parteicharakter wird viel zu wenig diskutiert, in sozialgeschichtlicher Sicht, finde ich bisher. Integrationspartei, Volkspartei, Ersatzpartei, es gibt verschiedene Begriffe. Und insofern glaube ich auch, dass also die Piccola Borghesia, die Sie auch wieder erwähnen, dieses alte Modell von Salvatorelli, falsch ist, dass das nicht reicht, es nur als Zwischenklassenpartei den Faschismus anzusehen, sondern die grundsätzliche Offenheit für das breite Spektrum der Gesellschaft bis hin zu den Arbeitern ist wohl das Typische. Und Sie sind ja in einer bestimmten Form auch alle in die Partei hereingekommen, stufenweise. Das Bürgertum ja sehr viel früher, wie wir aus einigen lokalen oder regionalen Untersuchungen jetzt inzwischen ja auch wissen, auch in Italien müsste das noch sehr viel mehr untersucht werden, sehr viel früher als man annahm, nicht bloß in meiner cosiddetta piccola borghesia. Und das war eine Integrationspartei von vorn. Volevo solo dire che queste cose Salvatore le ha scritte nel 21-22, no, gli articoli sono del 21-22, in volume sono apparsi nel 23. Nella sua storia d'Italia nel periodo fascista, Salvatorelli non ha più quella posizione. Naturalmente nel 21-22 non poteva prevedere il partito fascista di milioni e milioni di iscritti. Sono d'accordo, l'ho soltanto citato perché Salvatorelli è la fonte responsabile per tanto. Sì, ma erano articoli in quotidiano che valevano per la realtà che aveva sotto gli occhi nel 21 e nel 22. Già nel 25-26 non avrebbe scritto così. Ma anche qui si poteva vederlo, perché i blocchi nazionali sono stati già nel 21. Sì, ma quelli non erano diretti da Mussolini, erano diretti da Giolitti. Sì, nessuno in Italia prese i blocchi nazionali, forse fu questo l'errore degli antifascisti, dell'opposizione, nessuno capì che i blocchi nazionali servivano a dare il potere a Mussolini. Tutti pensavano il blocco nazionale serviva a ridare la maggioranza a Giolitti. Ein letzter Punkt, das ist aber mehr eine Vermutung, die ich nur jetzt noch anbringen will. Das Gran Consiglio gibt es ja nicht in Deutschland. Den Interessenausgleich mit den Diadochen, mit den Kardinälen, wie Sie sagen, musste natürlich auch Hitler führen. Er hat das mit Privataudienzen gemacht, wo er bekanntlich dann konkurrierende Führer hintereinander empfing und jedem Recht gab. Nicht jeder bekam einen Führerbefehl und hinterher hatten sie jeder einen. Das ist ja sein Prinzip gewesen, doch das ist ja ganz offen. Und seine Stärke. Das tat auch Mussolini. Ja, Mussolini hat es genauso gemacht, das wollte ich sagen. Dieses Prinzip, der ist also Supremus Arbiter. Ja, des höchsten Schiedsrichters, nicht nur innerhalb der Partei, sondern natürlich auch immer gegenüber den Fiancacciatori. Ist für beide ja wichtig geblieben, dann würde ich doch sehr viel stärker bis 38 das Gewicht der Armee, vielleicht als Sie einschätzen, Herr Brach, auch bei Hitler. Die Armee hat es selber jedenfalls so empfunden. Sie hat keine Politik gemacht. Ja, aber das hat die in Italien auch nicht. Die Armee hat keine Politik gemacht. Das ist, kann man nicht sagen. Das ist nur ein Faktum gewesen, das sozusagen außerhalb des Faschismus stand, immer noch in Deutschland und Italien, bis 38. Dann wird die Sache ja ganz entschieden anders. Vielleicht könnte man aber... Waren die Offiziere alle für Mussolini? In Deutschland waren die Offiziere alle für Hitler. Nicht. Nein. Ja, sie waren für die Allianz. Hier hat die Armee Ressentiment gegen die Miliz gehabt. Die Miliz, ja. Ja, das Ressentiment der Armee gegenüber der Miliz war sehr stark. In Deutschland hat die Armee einen Eid auf Hitler geschworen. Nur auf Hitler. Ja, er war Staatshaupt. Das ist der Beginn des Totalitarismus. Nicht als Staatshaupt. Auf, nein, auf Hitler, die Person. Auf Person. Die Person, Person Hitlers, nicht auf die Verfassung, nicht auf der Gehörigkeit, auf Hitler persönlich. Alle haben einen Eid geschworen auf Hitler und Fritsch und Beck und hier auch weiter. Alle, die in der Opposition waren. Hier auf den König natürlich. Ja, das ist ja die La Differenz. Ja, da würde ich sagen, beginnt ja die unterschiedliche Entwicklung zum mehr Totalitären hin, weil Hitler dieses möglich war, weil Hindenburg gestorben ist. Während der König ja erhalten blieb. Das ist völlig eindeutig, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich wollte nur vielleicht zum Schluss noch sagen, ob Hitlers Tischrunde, sei es in Salzburg auf dem Berghof, sei es dann im Hauptquartier und immer, eine Art von Ersatz war für das Gran Consiglio. Denn ein großer Teil der Hierarchien ist immer dort, musste ja dort auch anwesend sein. Bei Speer kann man das ja fantastisch nachlesen. Und Hitler hat sie sozusagen unter persönlicher Sichtkontrolle gehabt, so wie Mussolini, jedenfalls als er es nötig hatte, im Gran Consiglio eben auch alle hatte und sie auf sich einschwören konnte. Volevo, per tradurre, soltanto dire che il professor Schieder ha messo in rilievo, in lieve disaccordo dal, o anche non lieve disaccordo dal professor Barracher, che secondo lui gli elementi comuni fra fascismo e nazionalsocialismo sono numerosi, soprattutto fino al 1938, insomma, in fondo fino alla guerra, fino all'epurazione dell'esercito, fino alla guerra. Ecco, il professor Krüger. Sì, posso continuare a questo punto. Mi sembra molto importante l'aspetto del scioglimento del diritto da Lichtrechtlichkeit come elemento di una diversa del sistema. Mi sembra che in generale nella società moderna, nello Stato moderno, la funzione principale del diritto è l'organizzazione, diciamo l'istituzionalizzazione e la mediazione dei conflitti di interessi sociali, politici dei vari gruppi della società. E penso a un certo punto il fascismo o il nazionalsocialismo comincia questa dissoluzione del diritto per forza come elemento strutturale, come ha detto lei, perché il Führerprinzip è il momento dove il Führer si lasciava confermare la sua posizione, sempre creando nuovi conflitti. Abbiamo una dissoluzione del diritto, tutti gli interessi della società non si possono articolare, non si possono mediare nel sistema del diritto normale che a me sembra una certa rete ferroviaria dei vari interessi sociali. Interessi sociali si rivolgono sempre al Führer, nell'ultima istanza al Führer, e quello si lascia confermare la sua posizione, sempre creando nuovi conflitti, perché non decide mai finalmente un certo conflitto, sia politico sia sociale. E si lascia confermare questa posizione per un fine, naturalmente, no? Non è che vuole solo mantenere la sua posizione, anzi vuole realizzare i suoi scopi, diciamo, politici verso lo sfruttamento di questa situazione, delle varie ribaltà. Io penso che ci sono state necessariamente, ci sono ribaltà in un sistema, sì. Abbiamo tutto questa oligarchia, queste istituzioni nuove, compito viene creato una nuova istituzione. Quindi questo Führer crea sempre nuovi conflitti, la confusione diventa sempre più grande, e infatti il sistema borghese della proprietà predata, eccetera, eccetera, si scioglie e nell'ombra c'è questa nuova questo stato della SS, o questo magari anche la Repubblica Sociale, nella guerra del mondo, che è proprio, diciamo, la fine di questa tendenza autonoma del movimento fascista. Se permettete, vorrei sottolineare un altro punto, faccio un salto un po' indietro. Lei ha parlato, ecco, sulla funzione, diciamo, del Partito Socialista come partito nuovo di massa, diciamo. A me sembra che si possa allargare l'argomento nel senso che anche i partiti borghesi si cambiano, e anche, diciamo, altre associazionismo si cambia anche, nel senso che mi posso riferire a Habermas, c'è il classico discorso politico della borghesia, non c'è più. La opinione pubblica viene sempre più manipolata. E penso che anche ci sono vari partiti borghesi, associazioni borghesi, pensiamo al Bund der Landwirte per esempio, o diciamo anche tentativi non molto riusciti come Nationalsozialverein, dove vediamo che le masse vengono manipolate, vengono l'opinione pubblica viene formata da varie agenzie, e nello stesso tempo non abbiamo, almeno in Germania, non abbiamo uno Stato in grado di mediare questi vari interessi già nell'impero, no? Di mediare questi vari interessi che si rivolgono solo con mezzi di propaganda, con mezzi di agitazione, naturalmente questo vale anche per il Partito Socialista, senz'altro, al pubblico, e comincia questo mi sembra questo processo di partito di massa, a questo punto già negli anni 80-90, dove muore il discorso, ecco, classico politico della onorazione politica, eccetera. Mi sembra. Professor Conte. Posso rispondere a un gruppo prima, forse, per evitare... No, scusate, spezzetto un pochino di risposta, perché sennò poi alla fine viene una seconda conferenza. Voglio fare una premessa in generale, ricordando la cosa che ho scritto all'inizio del libro su Demagogia e Tirannide, perché è una cosa vera, no? Cioè, io ho messo questa citazione del Zauberlehrling di Goethe perché sono convinto di questa cosa, no? per esprimere con un'immagine una convinzione. Cioè, di evocare dei problemi che non sono in grado completamente di dominare, cioè io non sono in grado di dare una risposta agli spiriti che tiro fuori e di metterli in ordine, quindi benvenuti tutti quelli che possano mettere in piedi questa cosa. Questo lo dico perché ogni volta che si fa della comparazione, io non perché sia più bello, più importante, perché mi sono tornato a fare queste cose, cerco di fare dell'analisi comparativa, bisogna intendersi sui limiti, su che cosa si vuole arrivare con la comparazione, perché naturalmente è troppo facile dire, diciamo, i due estremi, ogni uomo è una storia individuale e tutti gli uomini sono uguali, entrambe queste due estremizzazioni possono essere vere, entrambe queste due estremizzazioni sono delle banalità. Allora, il problema, noi possiamo dire fascismi, totalitarismi, eccetera, eccetera, basta che ci intendiamo, no? Io lì parlo dei regimi fascisti, chiamando fascista anche il regime tedesco, non perché voglia accedere alla tesi del Deutsche Fascismus, sulla quale ci può essere molto, molto da dire, ma perché voglio dire che ritengo comparabili questi... No, non accedo, nel senso che non so prendere una posizione, cioè ritengo questi due regimi comparabili, simili, anche per un motivo molto semplice, perché sì. E specialmente Hitler tante volte ha detto di volersi rifare questo, e li chiamo fascismi invece che totalitarismi perché io non riesco a convincermi che il sistema sovietico sia completamente comparabile con questo, ecco, lo dico unicamente in questi termini. Poi, sulle osservazioni tutte molto interessanti che ha fatto il professor Bracher, una premessa, io credo che ci sia una questione importante per delimitare il campo comparativo, ed è questo. Il problema della decisione del nazismo di entrare in guerra, che è una decisione precoce e programmata che nel nazismo non esiste. Questo secondo me altera nel fascismo, scusate, non esiste. Questo secondo me altera notevolmente i termini della comparazione, perché da quando si decide di entrare in guerra ci sono una serie di mutazioni che il sistema dell'entrata in guerra consente, ma il sistema dell'entrata in guerra in tutti i sistemi politici è un cambiamento molto, molto forte. Io ho escluso una serie di problemi che pure secondo me sono molto importanti, per esempio i problemi che il partito affronta nei territori, nell'Austria prima di tutto, poi i problemi nei territori occupati e che cosa significano i territori occupati per lo sviluppo di questo regime e della forma partito medesima, che ho escluso perché per l'Italia questi problemi non esistono, non si possono fare. Quindi questo è indubbiamente un problema, un problema importante. C'è una cosa che a me fa, non dico un po' di problema, cioè sulla quale secondo me bisognerebbe cercare di scavare ancora. Questo problema del perché non c'erano istanze rivali nel nazismo e perché invece le istanze rivali nel fascismo ci sono. Ecco, questo è vero, però secondo me dipende da una struttura giuridico-legale. Cioè, non è che il fascismo ha abolito, cioè che il nazismo, scusate, ha abolito le istanze rivali e il fascismo non c'è riuscito. Il nazismo si è trovato in una situazione per cui la trasformazione, diciamo, già avvenuta con la Repubblica di Weimar gli ha consentito questa non esistenza legale di istanze concorrenti, perché chi si fosse messo come concorrente al potere di Hitler, è vero, si sarebbe messo di un tiranno, ma insomma si sarebbe messo anche contro il cancelliere e presidente del Reich. Questo è un problema grosso. E per questo secondo me il problema dell'esercito è centrale in Germania, perché l'esercito è una struttura che è vero che ha il giuramento di fedeltà personale di Hitler, eccetera, eccetera, ma è l'unica struttura intatta che si mantiene intatta dall'impero al 1945, secondo me con un problema in più, cioè che i nazisti stessi avevano legittimato accettando e ufficializzando la leggenda dell'esercito imbattuto. Perché i nazisti vanno al potere anche con questa leggenda, che l'esercito tedesco è un esercito imbattuto e che è stata la vera sede del potere politico, che ha salvato la Germania, chi ha perso la guerra sono stati i politici, non i militari. È questo che dà la forza all'esercito, ed è una forza che anch'essa deriva all'interno del regime. Questo, diciamo, problema costituzionale a me sembra un problema forte, e mi sembra molto interessante che il vero tentativo di superare questo sia il tentativo delle SS, perché è il tentativo di avere un altro esercito, cioè non è il tentativo di avere un altro partito esatto. No, le SS, cioè dal 37-38 in avanti, cioè il tentativo di avere non un altro partito come fondamento del potere, ma di avere un altro esercito, perché la legittimazione per dopo la fine della guerra può venire completamente se si è rotta questa continuità dell'esercito tedesco. Non deve essere l'esercito tedesco che ha vinto la guerra, ma l'esercito è un problema che pongo. Ecco, questo per le domande le questioni che pone il professor Schiller, indubbiamente questo problema del modello partiti socialisti, partiti comunisti, anch'io ritengo che sia un problema fondamentale. Ma che cos'è secondo me che divide la questione dei partiti socialisti dalla questione dei partiti comunisti? Cioè che i partiti, mi permetto di fare una semplificazione per capirci, i partiti socialisti sono partiti ottocenteschi che fronteggiano principalmente questo problema della integrazione delle masse da questo punto di vista, cioè dare una cultura politica delle masse, non attraverso delle elezioni, ma facendo partecipare questa gente a una specie di democrazia, di laboratorio politico democratico, di democrazia funzionante. Cioè, si vota nei congressi di partito, si vota nelle cose, così si impara a fare politica nello Stato. I partiti comunisti, questo problema l'hanno già risolto, perché Lenin ritiene che questo sia un problema che non esiste, che esiste il problema di una, come possiamo dire, di una elite dirigente che deve vincere la rivoluzione. Questo problema, qui nel movimento operaio, se vogliamo ritenere che esista questa categoria, è stato risolto con una frattura. Secondo me nei movimenti fascisti non è stato risolto perché questa tendenza convive, cioè convive l'idea che le masse si debbano addestrare allo Stato, sia pure non più attraverso la democrazia ma attraverso la liturgia pubblica, con l'idea che in fondo il problema del partito sia quello di esprimere un gruppo dirigente che si impadronisce dello Stato. Però, diciamo così, mentre l'esperienza di quasi 100 anni di movimento socialista con vari problemi, con varie storie, ha consentito la separazione di questi due problemi in due tipologie, questa esperienza successiva non l'ha consentito, perché la borghesia non ha maturato questo. Naturalmente il problema è, secondo me, anche da un punto di vista costituzionale preciso, cioè l'adozione di un... la decisiva adozione di un meccanismo di tipo comunista, per intenderci, non sarebbe stato funzionale nei partiti fascisti a questa debole dittatura che è in fondo quella di Hitler o di Mussolini, cioè che è una dittatura apparentemente fortissima, ma che può viversi, e poi tornerò sulla interessante questione che ha posto Kruger, che è quella della giuridicità, cioè per quanto non sembri, secondo me la caratteristica dei partiti comunisti è quella di essere partiti strutturati in maniera da risolvere i propri conflitti interni al di là del problema del capo carismatico o meno. È chiaro che questo significava la morte in prospettiva del ruolo del capo carismatico. Così vengo alla seconda questione. Il problema della posizione del duce, del Führer Principe, eccetera, eccetera. Io non è che voglio negare che nel fascismo sia esistita una questione del capo con tutto quello che ci si riconnette. Quello che io voglio dire è che non è la figura del duce che risolve questo. Cioè, mentre, per quel che capisco io, nel nazismo c'è un tentativo di istituzionalizzazione che non funziona perché l'istituzionalizzazione deve esprimersi a un certo livello di diritto formale che ucciderebbe il Führer medesimo, per cui c'è una finta istituzionalizzazione, però si dice il Führer è una figura istituzionale, questo principio gerarchico del capo. Nel fascismo questa figura del duce è una figura che si crea di fatto, viene trovata per la strada e non è mai chiaro però dove e come funzioni. No? Ja, aber in Deutschland heißt er nicht Präsident und Reichskanzler, sondern er heißt Führer und Reichskanzler. Appunto. Das ist eine konstitutionelle Konstruktion. Mentre in Italia... Duce del fascismo anche costituzionale, no? Ma solo nella legge, sostanzialmente No, non si parla di Duce del fascismo, si parla del capo del capo del governo. No, ma nella legge del Gran Consiglio. Nella legge del Gran Consiglio no, si parla del capo del governo, adesso non ce l'ho qui. No, la legge del Gran Consiglio mi pare che si parli di duce del fascismo. Sì. Capo del governo e duce del fascismo, non è chiarissimo, ma l'unica cosa in cui, cioè, e infatti la questione nei giuristi è molto rivelatoria, non esce discussione nei giuristi prima del 1936, perché... In Deutschland heißt er nicht Führer der Bewegung, sondern Führer und Reichskanzler. Certo. Führer von allem. Staat, nicht nur Bewegung, Staat, Volk, alles. Totalität. Sì, non è mai stato detto duce del partito. Sì, der Eid, der Eid der Soldaten, ich schwöre, nicht wahr, dem Führer und Reichskanzler. Sì, ma secondo me poi la cosa, diciamo, il problema discriminante è dato dal fatto che in ogni modo è impossibile risolvere la questione costituzionale della successione al duce, e per questo che è una categoria debole nel fascismo italiano, perché non si può, non si riesce a capire, cioè, che sia questa la categoria in base alla quale si risolverà il problema della successione a Mussolini. Perché non si sa cosa farne del re. Naturalmente è chiaro, i radicali, però questo è, diciamo, il problema di una rivoluzione da fare. Che non si sape... due tipologie non coincidenti. Non coincidenti, appunto, cioè, secondo me. Il problema dei blocchi, naturalmente è storicamente verissimo, il mio discorso sui blocchi è un altro, cioè che mentre in Germania è un partito chiaramente strutturato come l'NSDAP, che fa un blocco all'interno di una strategia di competizione di partiti, in Italia il problema dei blocchi è l'ipotesi di contrapporre una cosa che non è partito, infatti parte da Giolitti apposta, come risposta ai partiti nuovi, con l'idea di una cosa che non appartiene alla tradizione dei partiti, cioè il listone è una cosa fuori dei partiti, mentre i blocchi elettorali che fa l'NSDAP sono una struttura di un Parteienstaat. Semmai il blocco del 24, semmai bisognerebbe, sì, ma anche... vedere il blocco nazionale, certo, del 1924. Lì la questione è un po' più complessa, però è anche lì. Com'era il nome esatto del blocco elettorale del 24? La lista nazionale? Come? La lista nazionale. Lista nazionale. Sono due liste, un listone e un lista bene. Lista nazionale e poi lista fascista di minoranza. Fascista di minoranza. Per conquistare una parte dei seggi della minoranza. Sì. Però voglio dire, laddove la presenza del partito secondo me è molto più, cioè, è chiaro, si può. Il quarto punto, questione decisiva secondo me del problema della piccola borghesia. Io quando parlo di questo problema della piccola borghesia non intendo riferirmi a una categoria sociologica sul quale sono perfettamente d'accordo, sarebbe molto difficile sostenere che... voglio riferirmi, per capirci, perché non c'è un termine migliore, se troviamo un termine migliore sono d'accordo, a una categoria culturale, perché il problema fondamentale secondo me è questo. Come cultura politica nel paese, possiamo, insomma, schematizzando, cioè dire, esistono tre grossi tipi di culture politiche. Una cultura politica degli alti intellettuali, dico per esemplificare i professori universitari, che non sempre sono alti intellettuali, ma insomma, che è una cosa. Poi esiste questa grande cultura ufficializzata dell'apparato scolastico di Stato, che nello Stato contemporaneo è una cosa importante, con dei libri di testo, delle scuole elementari, delle scuole medie, eccetera, su cui bene o male si forma una specie di opinione comune, di vera e propria pubblica opinione, e che dà i concetti fondamentali da cui poi diventa difficile astrarsi, eccetera. Questo tipo di cultura evocativamente si può chiamare cultura piccolo borghese, nel senso che descrive abbastanza bene un tipo, che, per esempio, il rapporto di fedeltà con lo Stato, il problema della subordinazione, tutti questi problemi. Ecco, tutti questi problemi sono filtrati attraverso una concezione di questo tipo che diventa la concezione dominante del fascismo e che diventa la concezione dominante anche degli operai, dei ceti medi e via dicendo, più o meno rielaborate e riaggiustate. Questo io credo che sia il problema fondamentale. Quando io parlo... Middle class? Do you mean middle class? No, was man Ruske gestern sagte, Hitler las natürlich nicht von Serbik oder Siebel oder so, las diese kleine Broschüren und dort schöpft seine Ideen über deutsche Geschichte. Schulbücher und kleine Broschüren. Ja, ja, aber Schöner hat eine andere Kultur. La quinta questione, che è il problema del consiglio privato dei capi, questa è una questione interessantissima, su questo io voglio solo aggiungere un dato di fatto che mi sembra interessante. Il Gran Consiglio operava in segreto. Cioè, questo è giuridicamente una questione molto importante, perché segna una, è a mia conoscenza... Sì, no, perché segna l'unico aspetto di ritorno a un, diciamo così, vecchio modo di fare politica. Cioè, l'ipotesi che la decisione politica è una decisione segreta, di cui non deve essere noto il meccanismo di formazione, ma deve essere noto soltanto il risultato. Infatti, come è noto, il Gran Consiglio era noto un comunicato ufficiale. Questo mi sembra un dato interessante, no? Questo mi sembra un dato interessante perché è un dato relativamente raro, no? Cioè, che semmai è più tipico della cultura burocratico-amministrativa, anche nella burocrazia è indifferente come si giunge, o meno, relativamente indifferente come si giunge alla decisione. Si crede a notte. Cioè, questo è un altro discorso, però si rompe lo schema parlamentare in cui invece ciò che vale è il contrario, è il discorso che l'importanza della decisione politica è la sua trasparenza e la notorietà dei contrasti che ci sono all'interno di questa decisione. Naturalmente, io qui faccio una brevissima digressione. È chiaro che il problema fondamentale di questo modo di ragionare è uno solo, no? Cioè, è un problema che non l'ho posto io, per carità. È il problema classico che ha posto Max Weber sulla metodologia delle scienze sociali quando ha inventato l'idea del tipo. È il problema della astrazione categoriale affrontando questioni storiche. Allora, per fare un discorso banale, è lo stesso discorso delle leggi economiche, delle leggi perfino della storia medica. È chiaro, quando noi diciamo due persone hanno ambedue la stessa malattia, se noi andiamo alle storie cliniche delle due persone, noi vediamo due entità completamente differenti. Ciò non toglie che il patologo parli di una identità di malattia che è il frutto di un'astrazione. Quando noi parliamo di leggi economiche, parliamo di un discorso e poi andiamo a vedere tutta una serie di singoli fatti, senza una serie di estrazioni categoriali è difficile che... Il problema, secondo me, della storiografia è in questo stesso dilemma, cioè o noi siamo dei descrittori dell'esistente, e sarebbe da interrogarsi se è possibile essere dei descrittori dell'esistente, e allora naturalmente ciascuno parla la sua lingua e le possibilità di dibattito sono unicamente la reciproca confutazione di errori di fatto, oppure è possibile qualche cosa d'altro, e allora certo bisognerebbe arrivare a un minimo di accordo su questa astrazione categoriale. Siccome questo minimo di accordo oggi non esiste, non c'è, nessuno l'ha fatto, io non sono così superbo da pensare di essere io quello che può farlo e imporlo agli altri, ci troviamo senz'altro in grosse difficoltà. Brevemente la questione che ha posto Kruger, le due questioni che ha posto Kruger, che sono interessanti. Certamente io sono molto convinto su questo problema della giuridicità come connotato fondamentale, perché il connotato fondamentale della giuridicità, qual era stato? L'idea che il conflitto si risolve prevedendolo. Cioè, non ci saranno, in uno schema astratto, le leggi servono perché ciascuno sappia prima di tutto che cosa succede se due persone vengono in concorrenza, e quindi non deve succedere il conflitto, il conflitto è una specie di eccezione. Qui siamo in un'idea completamente diversa, cioè siamo nell'idea che questa ipotesi sia fallita perché tanto anche con le leggi i conflitti esistono. Allora, qual è l'unica idea? L'idea è che i conflitti non si possono prevenire, si possono solo dirimere. C'è un conflitto, io li dirimo. E il consenso sociale come si mantiene? Con l'idea che questa decisione, perché altrimenti cadremo nel sistema anglosassone di common law, sia una decisione che vale caso per caso e che sia sempre rettificabile. E questo è il superamento, secondo me, rispetto al concetto, non è esattissimo, che presuppone deve essere definito di common law, che sì, i casi si risolvono di volta per volta, ma il caso risolto fa stato per i casi seguenti. Ecco. Sul discorso del partito nuovo di massa, che non si limita al Partito Socialista, sì, questo io sono d'accordissimo, io sto facendo un lavoro in esplicito su questo, io mi riferisco al Partito Socialista per comodità, cioè perché nella opinione comune, anzi io personalmente, no, non per merito mio, per merito delle persone che hanno lavorato con me, alcune delle quali sono anche qui, siamo... credo riusciti a dimostrare, cioè abbiamo trovato gli elementi per far vedere come in Emilia Romagna già dagli anni 70 esiste un partito perfettamente organizzato, il partito di massa, che, come ricordava il professor Bagliani prima, il Partito Repubblicano, con degli statuti molto precisi, con un modo di funzionare tipicamente alla socialista, tanto è vero che lo stesso Andrea Costa copia ampiamente elementi da questo, viene da questa tradizione, eccetera. E io sono altrettanto convinto che i partiti non si possono studiare come sono studiati fino adesso, uno per volta, ma bisogna studiarli tutti assieme, perché non è che gli altri partiti, convivendo assieme ai socialisti, non abbiano assorbito elementi. Prendo il problema del Partito Socialista perché fu il problema che, artatamente fu sollevato dalla pubblicistica, cioè la pubblicistica non disse tutti i partiti si sono modernizzati, stanno cambiando, eccetera, eccetera, ma crearono questo mito. Il Partito Socialista è il partito nuovo, quello che non corrisponde a nessuno. Per questo ho citato questo saggio, secondo me interessantissimo, di Milhaud, che è uscito nel 1903, che è impressionante, di questo francese che ha passato un anno in Germania e descrive dall'interno questo viaggio in questo mondo sconosciuto della socialdemocrazia, dove racconta tanti piccoli episodi incomparabili con un altro partito, la persona che ha perso l'impiego, a cui il partito ha messo sull'osteria di partito e via dicendo. Allora, ringrazio il professor Pombini, il professor Conte. Naturalmente il professor Pombini risponderà alla fine, poi a tutti, ai successivi. Professor Conte. Ti devo dire subito che io ho trovato molto suggestiva e interessante l'analisi che tu hai fatto. Devo anche aggiungere che mi ha sollevato più dubbi che certezze. I dubbi sono, voglio dire, altrettanto importanti delle certezze, a fatto che non siano poi troppe, chiaramente. Ma mi ha molto interessato anche, direi, il presupposto, voglio dire, la cosa che sta dietro, secondo me, la tua relazione e anche i discorsi che facevi nei giorni passati, cioè questo tentativo praticamente di trovare uno strumento di misurazione, sostanzialmente, no? Dico, dell'oggetto che uno va ad analizzare. E l'approccio che tu hai scelto è questo metodo che potremmo definire costituzionale funzionalista, attraverso il quale tu ritieni di poter quindi valutare, analizzare, meglio recepire le differenze, che è molto importante naturalmente anche rispetto ad un discorso di storia comparata, questo discorso assai complesso e difficoltoso che insomma, per accenni anche stiamo facendo in questi giorni. Alcuni dei dubbi rispetto però a questo orizzonte generale, interpretativo che tu poni, sostanzialmente due domande. Tu stesso nel corso della relazione, più volte, anche se mai approfondito questo punto, hai praticamente richiamato il fatto che in sostanza lo stesso Stato fascista sotto il profilo della tecnica amministrativa e sotto il profilo diciamo della tecnica amministrativa non abbia in fondo poi apportato delle enormi differenze rispetto diciamo a sistemi precedenti che possiamo chiamare liberali. Naturalmente a livello macro istituzionale, e naturalmente tu lo fondi sulla forma partito, evidente, a livello macro istituzionale naturalmente le differenze sono enormi, no? Basti pensare alla eliminazione violenta del Parlamento e della dinamica parlamentare, che chiaramente troviamo qui una cesura nettissima, insomma, che ci aiuta a periodizzare e a stabilire queste differenze. Ora ti chiedo però, sul piano diciamo, del funzionamento dello Stato, ecco, a livello proprio di tecnica amministrativa, in un momento in cui comincia nei regimi capitalistici un determinato tipo di welfare state o un determinato tipo di Stato che interviene, quali differenze tu trovi e quali differenze credi di trovare alla luce di questo metodo interpretativo, cioè voglio dire appunto costituzionale funzionalista. Un'altra domanda più specifica invece mi viene da farti rispetto al problema del consenso che tu tratti qui nella cartella numero 5 e cui già avevi accennato nei giorni passati. E io all'epoca, cioè quando tu ne parlassi la prima volta non capii bene tu che cosa volevi dire, lo capisco invece bene adesso leggendo queste righe. Ecco, qui mi sembra effettivamente che il tuo giudizio sia troppo apolittico rispetto al problema del consenso psicologico, come tu dici. Perché appunto in questo orizzonte istituzionale naturalmente il problema del consenso diventa difficilmente maneggiabile se non ricorrendo a diciamo categorie di psicologia sociale, ma secondo me se noi non ricorriamo a quelle categorie che poi tu definisci inverificabili sostanzialmente di psicologia sociale non potremmo mai vederci più effettivamente, ritengo io personalmente, per esempio dell'enorme problema della Marktergreifung tedesca. Voglio dire, secondo me, dal 29 al 33 in Germania si è creata una talmente esplosiva carica nella società che noi dobbiamo necessariamente cercare di analizzare a livello di psicologia sociale, se no non la capiamo. Ed il problema a quel punto non dello Stato tedesco, ma diciamo del movimento nazionalsocialista non ancora regime, è in realtà proprio quello di acquisire consenso, secondo me, nel senso psicologico del termine. Come tu, praticamente come tu neghi, in pratica però non ti riferisci naturalmente, parli del problema dello Stato, diciamo, in generale, nella sua generale. Professor Lille. Professor Lille. Sì, vorrei aggiungere soltanto tre estremo brevi osservazioni. La prima e qualche parola a quello che ha detto il professor Bacher. Mi pare che il Führer Prinzip è nella Germania nazista molto più marcato, approfondito ed anche accettato che nell'Italia fascista. La figura del Führer era costituzionale, ma era ancora di più. Era una figura carismatica, una figura pseudo-religiosa. ed è perciò che i gerarchi, a mio parere, avevano in Germania molto meno potere o influenza che in Italia. Nel Gran Consiglio almeno si discuteva anche sulle grandi questioni politiche, mentre chi discuteva in Germania, non so se si può paragonare quella Tischwund di Hitler, mi pare che non esiste nella Germania nazista un paragonabile organo centrale di almeno relativa potenza. E perciò direi a quel che ha detto Schieder che il carattere totalitario del regime nazista era richiesto dalla ideologia sin dall'inizio. Il carattere totalitario è un fattore integrante del nazismo e non deriva da situazioni contingenti come la morte del presidente Hindenburg. E Führerprinzip e carattere totalitario sono le due cose principali. C'è il Führer che decide in tutte le cose che avevano importanza per lui. E a mio parere non è la policrazia che spiega il sistema, ma questa volontà del Führer è la base, il fondamento di questa volontà, la Weltanschauung nazista, come l'aveva formulato Rosenberg e come la praticavano Himmler e Heydrich. Mi pare che Hitler ha imparato da Mussolini i metodi, però i suoi scopi, la concezione, la volontà politica era molto diversa e perciò esiste nella Germania nazista, come diceva lei adesso ultimamente, una enorme differenza di fondo tra questo Stato nazista e il precedente sistema liberale, differenza che forse è stata un po' sottovalutata nella sua bellissima conferenza. E poi adesso devo dire al penultimo intervento di Piombelli, vorrei dire solo che sì, l'esercito è rimasto intatto, però l'esercito tedesco è stato, come lei accennava, radicalmente cambiato man mano con la immissione di nuovi e giovani elementi nazisti. E anche questa immissione è stata una delle ragioni per l'opposizione dei vecchi e dei generali e ufficiali che tenevano ancora alla vecchia tradizione. Cioè, grazie. Professor Corni. Ma io mi ricollego in primo luogo al problema del Führerprinzip. Sono d'accordo sulle affermazioni di quasi tutti qui, mi pare che concordano nella sottolineare la notevole differenza qualitativa tra il Führerprinzip e il principio del Duce. Mi domando però, e lo domando soprattutto a studiosi molto più preparati e più esperti di me, se questo problema del Führerprinzip non sia un problema che, benché enunciato fin dall'inizio, diventi poi qualcosa di qualitativamente nuovo solo a partire da un certo momento. Cioè, in altre parole, in tutta la fase della lunga cosiddetta del lungo Anlauf, della lunga rincorsa da parte del Partito Nazionalsocialista, che io forse farei terminare col 29-30, io come credo quasi tutti, forse anche lì, come il professor Bracher ci ha insegnato, c'erano delle alternative anche a Hitler, che invece non mi pare ci fossero, per quel poco che so, nella fase di rincorsa 22-25, quella che ormai anche credo abbastanza concordemente gli storici del fascismo esaminano come una prima fase, diciamo, di rafforzamento, di rincorsa del regime. Non mi riferisco solo a Strasser, ma a varie altre alternative del gruppo del nord, il gruppo del sud, eccetera. Mi domando se, ecco, il Führerprinzip non debba effettivamente non abbia effettivamente fatto un salto qualitativo solo a partire dal 29-30, quando, come diceva Conte, si innescano meccanismi completamente nuovi a livello anche di sociologia, di psicologia di massa e anche poi concreti, crisi economiche, eccetera. Il secondo punto che volevo sottolineare brevemente era questo. A pagina 24, parlando del problema del reclutamento della classe dirigente e sottolineando quindi che, a tuo parere, in entrambi i partiti si è cercato di fare in modo di non in realtà arruolare i membri del proprio partito in posizioni importanti, e tu dici in ambiti politicamente poco pericolosi. Ecco, io per quel poco che conosco della situazione tedesca direi che questo non mi pare molto vero. Prendo l'esempio che conosco abbastanza bene della situazione della politica agraria e delle organizzazioni statali, di partito, parastatali, paradipartito, che si addensano una sopra l'altra a partire dal 1933, ma anche prima, nelle quali i gerarchi, Führer, Unterführer delle varie gradazioni, da Darre in giù, ma credo che la stessa cosa si possa dire per la Deutsche Arbeitsfront di lei o per altri ambiti, vengono messi in posti che non sono affatto politicamente poco pericolosi, almeno intendiamoci su cosa vuol dire questo, perché in realtà poi lì, per esempio la politica agraria, ma anche in tutti gli altri settori, lo ha dimostrato Mason per esempio nella sua ricerca sulla Deutsche Arbeitsfront, scoppiano delle contraddizioni enormi, perché questi Führer e Unterführer mescolati in modo, credo non ancora studiato fino in fondo, con la burocrazia pre-nazista e con la burocrazia invece di arruolamento nazista, danno vita a delle, come dire, a un campo di forze molto pericoloso, che poi in realtà forse fa anche scoppiare il regime ad un certo punto, o lo porta, o lo tendenzialmente, a contraddizioni insanabili. Dico questo perché vorrei sollevare appunto l'obiezione un po' rispetto a quello che diceva anche il professor Bracher e altri, che durante il Terzo Reich non c'erano istanze rivali. Forse le istanze rivali non erano istituzionali, lasciando da parte il problema discusso dell'esercito, discutibile dell'esercito, ma le istanze erano all'interno del regime. Io pongo so che molti non sono d'accordo, però il problema che ha detto adesso il professor Dill della policrazia, secondo me è un approccio... Una persona? Prego? Persona, personificio. Della policrazia, beh, se ne possono fare molti, non so, per esempio la politica commerciale, io per esempio ho visto la politica commerciale, c'erano persone come Ritter, come Posse, che non erano dei arruolati dal nazismo, ma erano dei convertiti, cioè erano dei burocrati normali che avevano iniziato la loro Laufbahn ancora sotto l'impero Guglielmino, la diplomazia. Ma non resistenza. No, non resistenza no, quella no di sicuro. Resistenza no. Sono cose diverse. Ecco, sono cose molto diverse. Secondo me l'approccio, e poi no, non è che voglio andare... Sì, si potrebbero fare esempi, per carità. Io qui mi parlo con il maggiore esperto mondiale del problema, quindi non è che sto solo sollevando un'obiezione, un problema. Mi pare insomma che forse prendere e esaminare il problema da questa prospettiva, ecco, ci porta a sfumare un pochettino questa contrapposizione che anche oggi nella discussione è di nuovo ritornata fuori tra fascismo e nazionalsocialismo, e quindi anche il post-nazismo, e quindi anche, altrimenti non si spiegherebbe poi perché dopo il 44-45 erano già tutti pronti in qualche modo a un post-nazismo, tutti quelli che dopo il 45 poi hanno, a parte gli Juncker che sono stati eliminati, hanno prego? Sì, appunto, no, ma sono stati eliminati col 20 giugno, si diceva ieri, ma lei non c'era, ieri c'era un dibattito sul numero degli Juncker eliminati. scusa. Professor Hintz, professor Hintz. Sì, sono io. Cioè io volevo fare una osservazione del tutto marginale, cioè quasi terminologica, perché il suo discorso in generale mi sembrava talmente ricco che non riesco nemmeno bene a centrarmi in sede di un piccolo contributo ad una discussione. Cioè lei ha parlato, a mio avviso giustamente, della necessità del regime di procurarsi un consenso di massa via una liturgia a spettacolo, insomma, a scopi di giustificarsi, legittimarsi verso l'esterno, ed ha citato un problema, una formula che mi ha occupato molto durante i miei lavori, cioè questa famosa formula benjaminiana del 36, della istituzione della politica. E quella formula non mi sembra del tutto esatta e nemmeno davvero congrua con la sua analisi, perché mi sembra troppo vicina ancora alla nozione sempliciotta di un semplice trucco demagogico. Cioè, mi sembra di una parte che il discorso di Benjamin che tenta di tradurre i termini delle intenzioni politiche in concetti estetici, mi sembra prima di tutto che sia fallace in Benjamin stesso. Mi sembra nel secondo luogo che si dovrebbe almeno aggiungere come allora la forma quasi estetica trasforma i contenuti che ci stanno sotto. Cioè, noi chiaramente non ho da offrire un'altra formula altrettanto brillante e altrettanto stimolante, però mi sembra che più da pensare da già l'altra formulazione, secondo la quale gli operai nel nazismo hanno trovato la loro espressione, ma non la loro giustizia. Cioè, io parlerei piuttosto di... si tratta di una cosa difficile da formulare, di uno spettacolo puro, insomma, di un vero fiat ars pere abundus, insomma, ma non nel senso di una estetizzazione della politica. C'è qualcun altro? Prego, professor Calì. Volevo solo l'ultima parte della relazione in particolare sulla questione dell'organizzazione, cioè mi ha sollecitato un interesse notevolissimo, soprattutto l'ultima parte, mi rendo conto che il professor Pombeni ha provato tantissimi punti e giustamente sull'organizzazione, il tesseramento, gli aspetti soprattutto organizzativi del fascismo non ha potuto diffondersi a lungo. No, perché nasceva dall'insoddisfazione in un certo senso finora nel seminario riguardo alla declinazione dell'organizzazione rispetto all'ideologia. Perché anche io ho preparato alcune domandine ieri sera, questo Gentile purtroppo poi si è trascinata molto a lungo la discussione, che non è stato possibile farlo. No, credo che questo aspetto dell'organizzazione, ieri sera Gentile parlava di mito nazione, realtà nazione. In un certo momento nella discussione, la realtà nazione italiana, cioè il punto del il fascismo risponde effettivamente, certo ci sono quei preelementi costitutivi come il nazionalismo, il sindacalismo rivoluzionario, la cultura antigiolittiana, l'italianismo, cioè questi aspetti, la realtà nazione italiana, quel momento in cui il fascismo raggiunge il potere, nell'organizzazione reale, cioè, che per l'Italia nel 22-23 era modernizzazione, disciplinamento sociale, ecco, l'insoddisfazione è un po' sui termini dell'organizzazione dello Stato a cui il fascismo ha dato risposte concrete, perché il senatore Valiani all'inizio diceva che stare attenti alla sottovalutazione del fascismo e del nazismo. Nel caso italiano la sottovalutazione forse ancora oggi sta nel fatto, io lo dico da uno che legge insomma, sul fascismo da 10 anni, cerca di documentarsi con le opere che escono. L'insoddisfazione è proprio quello di vedere che sugli aspetti organizzativi poco si è approfondita l'analisi. Ecco, credo che quell'elemento, e quindi non è un convegno, semplicemente a me sembrava una sollecitazione che nasceva dall'ultima parte, perché si ricollega anche ai partiti di adesso, c'è questo discorso fondamentale di quell'eredità che dentro i partiti, nella pluralità dei partiti, però il metodo fascista ha lasciato in piedi. Chiunque di noi abbia fatto esperienza di vita di partito, io l'ho fatto per circa 10 anni, sa quanto di questa eredità fascista poi dentro i singoli partiti, nella pluralità dei partiti, poi è stata ereditata. Quindi è un elemento l'organizzazione, il tesseramento, tutti questi aspetti. Riconducendo poi alla genesi del fascismo, mi sembra che questa realtà nazione italiana, in cui il fascismo dà delle risposte di disciplinamento e di modernizzazione dello Stato, non sia sufficientemente... perché non mi soddisfava quello che diceva Gentile, che l'apparato militare del fascismo, cioè Gentile ieri sera diceva, vero momento di coagulazione è lo squadrismo. Non mi soddisfa, cioè non è possibile che il fascismo, il momento di coagulazione sia lo squadrismo. Perché se uno legge gerarchia del 21-22, legge gli interventi di Gioacchino Volpe, di Pareto, i contributi alla rivista Gerarchia sono nel dire che il fascismo rispetto alla tradizione italiana del Medioevo in poi è, è la risposta organizzativa adeguata allo stato di crescita e di modernizzazione dello Stato italiano. Cioè, poi vabbè, lo stesso Togliatti nelle lezioni sul fascismo da Mosca poi riprenderà appunto alcuni concetti fondamentali sull'organizzazione, la risposta organizzativa in termini di modernizzazione e disciplinamento che il fascismo dà alla società italiana. Era soltanto alcune riflessioni che mi sembra che rientrano pienamente nell'analisi che fa il professor Bombeni e che però nell'ultima parte gli chiedevo se sull'organizzazione del tesseramento poteva eventualmente aggiungere qualche cosa. C'è qualcun altro? Io vorrei aggiungere alcune considerazioni. Noi stiamo facendo storia comparata necessariamente, perché se no non avremmo messo insieme fascismo e nazionalsocialismo. Anche il professor Blacher, che più ha insistito sulle differenze di fondo fra fascismo e nazionalsocialismo, però poi li mette sotto la stessa considerazione dal punto di vista della categoria del totalitarismo. Quindi è evidente, noi supponiamo che ci sia qualche cosa di paragonabile. Si intende che poi sono diversi, ma direi la Germania e l'Italia sono di per sé diversi. Se guardiamo tutta la storia recente italiana e tedesca, beh, il problema della monarchia, dell'esercito, del rapporto nord-sud e addirittura oggi stesso la democrazia repubblicana sono diversi in Italia che in Germania, quindi anche allora erano diversi. Questo vale naturalmente per tutti i fascismi che ci sono. Io ho ascoltato con molto interesse nella relazione letta, anzi, del professor Bombeni, l'accenno alla Turchia che ha avuto nel trattato di pace questo obbligo di accettare la civiltà moderna. Io però voglio ricordare che addirittura nei confronti dell'Ungheria il trattato pace 1920 poté firmarlo soltanto se introduceva il suffragio universale segreto. Naturalmente gli ungheresi cosa fecero? Introdussero per quella elezione il suffragio universale segreto, era la nobiltà ungherese che deteneva il potere dopo la sconfitta della rivoluzione comunista del 19, passata alla festa Gabbato lo Santo, immediatamente dopo la firma del trattato di pace soppressero il suffragio universale e segreto. Però, e questo vale la pena di ricordare perché siamo in una discussione su fascismo, questo prevenne la fascistizzazione dell'Ungheria, che probabilmente col suffragio universale segreto si sarebbe formato un partito fascista che avrebbe conquistato, o nazista, che avrebbe conquistato il potere e poi l'avrebbe esercitato in modo dittatoriale se non totalitario, mentre questo invece accadde soltanto con l'occupazione tedesca del 1944. Quindi, la democrazia è una bestia, strana. Ha ragione assolutamente il professor Bombeni che il fascismo non risolse nessun problema istituzionale. Infatti questo lo si vide il 25 luglio. Il 25 luglio si vide non solo che non esisteva nessuna soluzione istituzionale, però si vide anche che lo stesso partito armato su cui ha insistito il professor Gentile ieri, e io condivido che il partito armato era la base, il punto di partenza, direi la novità del fascismo, che non dobbiamo sottovalutare, perché se sottovalutiamo queste manifestazioni sottovalutiamo quello che diede la vittoria al fascismo. Cioè, ha ragione perfettamente il professor Calì, il fascismo fu anche un movimento di modernizzazione dello Stato e poi più tardi con l'IRI anche dell'apparato industriale, anzi già prima dell'IRI, già con dell'apparato industriale. Non è per questo che vinse. Vinse perché aveva un partito armato. Se noi togliamo questo partito armato, questo uso sistematico della violenza, non spiegheremmo più perché vinse. Con la pura modernizzazione, quelle idee di Pareto o di, non solo di Pareto, di Rocco, ne abbiamo parlato ieri, con le idee di Coppola, di Federzoni, eccetera, al potere non sarebbe giunto. Ma il partito armato aveva un suo limite, e il limite era la neutralità dell'esercito. Il momento in cui, se l'esercito avesse sparato il 28 ottobre, ebbe, probabilmente la marcia su Roma sarebbe abortita, c'è lo studio di Repace e di tanti altri su come questo partito armato fascista era in condizione di schiacciante inferiorità materiale rispetto all'esercito nelle poche ore dello Stato d'assedio, che poi fu immediatamente revocato. Mi domando anche se i generali tedeschi si riunirono il 28 gennaio del 33 ancora per domandare se dovevano o non dovevano, poi dissero se c'è Hindenburg quindi non possiamo, se dovevano o non dovevano sciogliere d'autorità il partito fascista, cancelliere era ancora von Schleicher, e c'è anche questo ultimo libro di von Schleicher ne parla, ma c'è già tutta una letteratura sull'argomento. Mi domando anche se il partito armato nazista avrebbe retto ad un urto dell'esercito il 28 gennaio del 33. Naturalmente bisognava che Hindenburg o nel 22 il re desse l'ordine. Il 25 luglio il re diede l'ordine, e per questo il partito fascista si sciolse come neve al sole, perché si trovò di fronte la realtà schiacciante dell'esercito. Pure era un esercito non vittorioso, ma addirittura sconfitto in una guerra, ma tuttavia abbastanza forte che se la milizia avesse voluto resistere sarebbe stata sicuramente facilmente sconfitta, e questo spiega anche. Ultima considerazione, per sottolineare l'importanza di quello che ha detto il professor Pombini, dell'eredità che noi abbiamo preso dal fascismo, che non è certo un'eredità favorevole, la lottizzazione partitocratica dei posti, e appunto nella vita di una nazione, nel bene o nel male, c'è sempre la continuità. C'è la rottura, il fenomeno rivoluzionario, poi come Tocqueville ha già dimostrato, dopo la rivoluzione, Napoleone, eccetera, il vecchio Stato francese, questo è capitato anche nell'Unione Sovietica, e quindi ecco la comparabilità anche del comunismo col fascismo, sempre entro ristretti limiti, naturalmente. Credo, scusa la parola al professor Pombini. Io ringrazio tutti, naturalmente tutte le osservazioni sono preziose, e io ripeto sempre, non sono per niente convinto di aver fornito alcuna specie di letto di Procusto in cui mi giuriamo, poi tagliamo da una parte e tagliamo dall'altra per un cittadino. Sono tutte questioni importantissime, alle quali dico alcune cose in dibattito, non per dire che io ho la soluzione e gli altri no. Conte ha posto due questioni fondamentali, indubbiamente. Da un lato il problema dello Stato fascista, la tecnica amministrativa e il rapporto con lo Stato sociale. Però io qui devo dire che dipendo dagli studi che ha fatto il mio amico Melis di Sassari, che ha studiato in... Non è lo stesso Melis. Vabbè, a Sassari ci sono tre cognomi e quindi tutti si chiamano uguali. Che insegna storia dell'amministrazione all'Università di Sassari, che ha fatto un libro che purtroppo è in edizione provvisoria, e io ho visto e spero che esca, sul rinnovamento della burocrazia sotto il fascismo, cioè che è uno scavo archivistico molto, molto importante a mio giudizio, questo aspetto parallelo fra le vecchie amministrazioni dello Stato e le nuove amministrazioni messe in piedi dal fascismo. E questo studio, molto convincentemente mi pare, perché è basato su fonti d'archivio, cioè non è una teoria politologica fa vedere come da un lato ci sia una fortissima continuità della cultura burocratica italiana, che passa dall'età giolittiana, che Melis ha già studiato in un libro precedente, che è data, e questo è molto interessante secondo me, da burocrati che sono vicini al Partito Socialista Riformista, cioè vicini all'ala socialista riformista, che poi attraverso Nitti si convertono in una specie di tecnicismo. Beneduce. Ruini stesso, appunto. Cosa interessante è che, non so se ricordate, quando Mussolini scrive gli articoli Il bastone e la carota sotto la Repubblica di Salò, fa due nomi soltanto, uno Togliatti, Ercole, perché non sapeva neanche che fosse Togliatti, e dice vabbè, questo è il pericolo comunista. Poi invece dice a Roma il Comitato di Liberazione è una persona di grande valore, e fa il nome di Luini. Certo. E questi sono appunto ex... Perché è un burocrate molto abile, Luini. Sono due ex socialisti riformisti che scrivono sulla critica sociale di Turati, poi passano attraverso Nitti, e fanno tutto. tutta la burocrazia vecchia e nuova fascista da un certo punto di vista. Questo è un aspetto molto importante per quel che riguarda, la trasformazione della tecnica burocratica, e naturalmente spiega una questione che secondo me è ancora importante, che è il fascino che, come dicevo in un passaggio della relazione, fascismo e nazismo hanno esercitato su uomini di cultura, e che è un problema politico secondo me fondamentale per gli uomini di cultura, che il fatto che gli uomini di cultura prima dicono c'è un determinato problema e poi, a furia di pensare che qualcuno deve portare una soluzione, il primo che si mette in piazza e dice c'ho la soluzione, si illudono che sia il Messia venuto a confermare le loro intuizioni. Adesso io banalizzo un po', ma insomma questo. Poi c'è l'altro problema altrettanto importante dello Stato sociale, dello Stato assistenziale, che è importante perché tanto, e in questo credo sia veramente relativamente comparabile, tanto nel fascismo come nel nazismo sono gli inventori dell'assistenza sociale come assistenza di partito. Voi sapete che l'assistenza invernale del partito fascista, su cui esiste una certa letteratura interna del partito fascista, che per esempio doveva rivolgersi a tutti, anche ai non iscritti al partito, perché serviva come momento di creazione del consenso, eccetera, eccetera, è un momento importante del regime, ed è un momento importante in cui per la prima volta, diciamo così, lo Stato, perché in qualche modo lo Stato che non ardisce, parlo per la situazione italiana che conosco meglio, che non ardisce ancora sostenere che questo è un compito dello Stato, come diventerà poi invece nel dopoguerra fondamentale, lo Stato ritiene attraverso una sua organizzazione, che però è leggermente sfalsata rispetto a lui, fondamentale arrivare a questo meccanismo dell'assistenza, che è ancora un'assistenza di tipo, virgolette, caritativo cattolico, per intendere, cioè un'assistenza di piccolo stampo. Questo è una, che trovo un parallelo, non so fino a che punto parallelo, perché conosco molto superficialmente purtroppo questo tema, in Germania, nella Winterhilfswerke, che è, anch'essa è un tipo di intervento caritativo di partito, entro questa vecchia struttura, diciamo così, paleocristiana, paleoreligiosa. Questo è un aspetto importante perché lega, diciamo, la funzione politica con la distribuzione di un beneficio anche verso quegli strati della popolazione che sono esclusi dai benefici che normalmente possono distribuire i partiti, cioè accesso a carriere pubbliche, divisione di spoglie politiche, eccetera, eccetera. Però c'è secondo me un secondo passaggio rispetto alla fondazione dello Stato sociale per cui questi regimi sono fondamentali, ed è quello che è stato richiamato prima, cioè la generalizzazione della categoria di operaio, no? Cioè, sono questi regimi quelli che, attraverso un processo che secondo me è già in sé molto interessante, introducono questa idea che tutti sono operai in qualche modo. Allora, nessuno si è chiesto, non so, forse qualcuno se lo è chiesto, ma è stato poco chiesto, come mai si è introdotta questa parola, che fondamentalmente non era un complimento, perché tutti hanno voluto attribuirsi questa qualifica di operaio. Secondo me, io cerco un'interpretazione, perché, come cercavo di dire prima, questa è una figura sociale che nella trasformazione del diritto che si è avuta tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, ha avuto una serie di tutele particolari, no? Richiamiamo prima la trasformazione nella teoria giuridica della natura del contratto di lavoro. Allora, mentre il privato qualunque, fino all'impiegato, aveva dei contratti di lavoro molto sfavorevoli e molto poco tutelati, si cominciava almeno, o non li aveva, si cominciava almeno a immaginare, in alcuni casi si avevano anche ipotesi di tutela di questo operaio. Allora, si trattava di far trasmigrare questa categoria sociale di persone tutelate anche a tutta un'altra serie di personalità, da un lato. Dall'altro lato, questa parte della popolazione, diciamo, aveva accesso a quella che era la struttura dello Stato sociale, che come è noto da tutti è stata, non so se è inventata, adesso non facciamo discorso sull'invenzione, ma insomma è stata introdotta in maniera cospicua e modellistica per tutta l'Europa da Bismarck, tanto è vero che tutti gli Stati europei, compresi gli inglesi, nelle grandi riforme liberali del 1906-1909, hanno copiato e poi modificato, si capisce, questo meccanismo dello Stato bismarckiano. Però questa ipotesi dell'assistenza sociale, chiamiamola così, a chi era limitata inizialmente? Era limitata ovviamente a quelli che venivano chiamati ceti non abbienti, cioè alle persone che non erano in grado da sé di provvedere a questo. È chiaro che invece l'allargamento fittizio, della categoria di operaio alla grande massa della popolazione, apriva questa idea che tutti avevano diritto all'accesso a questo e quindi, diciamo, costituiva un miglioramento di fatto sociale per tutti, perché tutta una serie di prestazioni venivano a gravare sullo Stato, non più sui singoli. Il fascismo, non so se il nazismo, perché purtroppo non ho elementi sufficienti, il fascismo indubbiamente condusse un'opera in questa direzione, pensiamo solo all'opera maternità e infanzia, che anche le qualsiasi assicurazioni sociali, le assicurazioni sociali, le colonie marine, furono tutte le assicurazioni sociali, furono estese a tutti i dipendenti pubblici e privati, con l'eccezione dell'assicurazione disoccupazione per i braccianti agricoli, che non passò mai, è l'unico punto dove il fascismo si fermò, perché la sua base di piccoli proprietari non poteva sopportare questo onere. Come già i tempi di Giolitti, le nazioni sono sempre le stesse. E quindi questo credo che secondo me sia molto importante, perché naturalmente è, se vogliamo fare una proiezione, quello che ha portato oggi in crisi lo Stato sociale, perché quando diciamo questa redistribuzione del reddito è finita per essere una redistribuzione generalizzata, cioè alla fine si è ritenuto che a questo tipo di prestazioni abbiamo diritto tutti, questo sistema che non era stato pensato così, e che è andato avanti sulla base di un'astrazione, di un allargamento di categorie ideologiche, non di categorie sociali, ecco, così, è entrato in crisi. Questo mi sembra un aspetto importante sul quale sarebbe molto interessante fare un discorso più ampio. Brevemente sulla questione del consenso. Io non è che nego l'importanza del problema psicologico del consenso, le cose che hai detto tu sono perfette, condivido, è chiaro che se non ci fosse il consenso ci avrebbe preso il potere, eccetera, eccetera. Io cercavo di affrontare un problema relativamente diverso, cioè che cosa vale per il consenso a un regime politico, non il consenso che porta alla conquista del regime, questo è un altro problema, secondo me. Allora io cercavo di demitizzare, diciamo, questa esplosione, perché come tutti sanno la storiografia italiana è passata adesso due momenti: prima quello che sosteneva che i fascisti non ce n'erano, consenso non c'era nessuno, poi adesso il momento in cui invece tutti erano fascisti, tutti davano il consenso, eccetera eccetera. Questo io ritengo immisurabile, cioè ritengo che da questo punto di vista, per la solidità di uno Stato, non è importante tanto la quantità di accettazione psicologica che i cittadini hanno verso il suo sistema, ma la possibilità di avere un meccanismo che consente di rendere indubitabile l'esistenza di questo consenso, ecco. Cioè che consente di non andare mai a verificare se questo consenso psicologico c'è o meno, no? È chiaro che questa fixio giuridica sta in piedi fino a un certo limite, cioè non è che è una specie di tendone con il quale si può mascherare per l'eternità il problema reale, però si può mascherarlo entro certi limiti per una certa fase, in maniera da poterlo superare. Se invece questa fase diventa patologica, è chiaro che allora questo strumento legale del consenso va a pallino. Io credo che sia importante misurare la questione del consenso fascista prima che sull'ipotesi che la gente si entusiasmava per la guerra di Libia o si disentusiasmava per le leggi razziali, che sono cose vere, ma sarebbe come misurare oggi il consenso sul fatto se l'Italia si entusiasma di essere italiani perché vince la partita di calcio con la Germania e il mese dopo non gli piace più perché la perde o aumentano le tasse, che sono fenomeni reali, no? Cioè non è mica che sono fenomeni inventati, e invece arrivare a una considerazione un po' più politica. Il professor Lille ha posto due questioni grosse sulle quali è complicato, è complessissimo. Sì, perché questo problema della versione del fluido del principio è complessa. Si può per esempio discutere addirittura sulla stessa edizione se nel Gran Consiglio si discuteva o meno, perché un altro dei problemi fondamentali è che, come l'esperienza accademica insegna a chiunque, si discute sempre quando si sa che alla fine si trova un accordo o quando la discussione, diciamo, può arrivare a esiti abbastanza fittizi. Il problema è che le discussioni si chiudono nel momento in cui si sa che questa unitarietà non c'è, e nel Gran Consiglio è successo questo, cioè c'è stata discussione fin tanto che Mussolini riteneva che tanto comunque la discussione sarebbe andata bene, sarebbe andata nelle sue cose. Nel momento in cui, con una fine sensibilità politica, perché Mussolini era un politico molto fine, molto... Ma per 10 anni non c'è stato. Appunto, dopo non c'è stato alla fine. Ha chiuso perché ha ritenuto che la discussione sarebbe diventata discussione. Nessun convegno. Certo. Problemi posti da Corni. Ecco, io credo, il primo problema, lo riassumo in una questione che secondo me è centrale. Problema, le alternative a Hitler sono esistite, le alternative a Mussolini non sono esistite. Questo sì che è un problema centrale, ma perché è un problema centrale? Perché questo ci consente di capire la base del potere di Mussolini. Cioè, perché io ritengo che mentre Hitler ha conquistato un reale potere sul partito attraverso un'operazione progressiva, ci sono degli stadi di costruzione di questo potere, abbattendo una serie di avversari, eccetera, eccetera, Mussolini non ha conquistato nessun potere sul partito. Banalizzo per capirci, dopo ci potremmo fare più sfumature, si capisce. Cioè, che cosa è successo? Diciamo, c'è un movimento molto magmatico nel 22, di cui la figura politicamente più sperimentata e più nota è Mussolini, perché non è un fascista, è un ex capo socialista che tutti conoscono. Il re chiama questa persona perché fa un calcolo politico preciso, ritiene che questo sia il più moderato, quello più in grado di fare le cose, mica poteva chiamare, chi poteva chiamare in alternativa Mussolini? Ecco. Questo fatto, cioè questa chiamata, fa di Mussolini il capo del fascismo, cioè, perché Mussolini, come ricorda giustamente nel Gran Consiglio, ricorda che da quel momento in avanti chi mette in discussione Mussolini mette in discussione il fascismo. Cioè, è il re, diciamo così, che elegge Mussolini capo del partito, del regime, capo di tutto. Così come, naturalmente, io ritengo che non so dire l'assenza di discussione, ma diciamo così, insomma, il problema complesso interno al partito nazista sia dato anche da questo fatto, cioè che questi meccanismi del potere monocratico, cioè della riproposizione del sovrano, fanno poi sì che siano regimi politicamente bloccati, in cui il cambiamento è impossibile, perché la messa in discussione della persona del capo significa la messa in discussione del regime. E questo è un meccanismo che i capi ebbero perfettamente presente. Secondo me i seguaci non ebbero presente. È un problema fondamentale, perché è il problema di questa ambiguità costituzionale che non è sciolta da nessuna parte. Cioè, e per questo io mi permetto di dire che c'è una differenza con il regime sovietico, dove questa ambiguità non esiste. No, questo no. Questa ambiguità costituzionale non esiste. Cioè, i sovietici la rivoluzione l'hanno fatta e l'hanno vinta per davvero. Dopodiché, naturalmente, io, ci intendiamo, non intendo né fare una bagatellisierung del nazismo, né fare una soluzione del regime sovietico, con il quale io non sono affatto consenziente, ma diciamo, vedendo le cose da un punto di vista costituzionale, indubbiamente questa è la grossa spaccatura. Cioè il regime di Mussolini e di Hitler ha questo intreccio fra presa del potere legale e potere monocratico che lo rende un regime che non si può mettere in discussione senza distruggerlo, mentre la rivoluzione del 17 pone il regime sovietico in una condizione di poter superare, entro certi limiti, con certi prezzi, eccetera, eccetera, le proprie contraddizioni al suo interno. Il problema, secondo che ha posto Cornico, il problema dell'immissione dei membri del partito in posti del partito che sono politicamente troppo pericolosi, poco pericolosi. Ecco, io devo spiegare questo termine, cioè Corni ha perfettamente ragione nelle osservazioni che ha fatto, le condivido pienamente. Cioè, cosa intendi con politicamente poco pericolosi? Politicamente poco pericolosi dal punto di vista di Hitler e di Mussolini, cioè dal punto di vista dei dittatori, perché ai dittatori non ne fregava niente se dal re diventava il capo della ristrutturazione agraria nazista, o se entro certi limiti Bottai colonizzava il Ministero dell'Educazione Nazionale o via dicendo. Cioè non era questo che metteva in discussione la propria cosa, oppure non interessava niente se Starace riusciva a fare assumere 30 impiegati in più alla Banca Nazionale del Lavoro o via dicendo. Cioè, solo in questo senso sono politicamente poco pericolosi, nel senso che dice Corni, cioè dell'equilibrio complessivo del regime, no, sono pericolosissimi, tanto è vero che sono dei fattori di disgregazione e di osservazione di Hinz sul problema dell'istituzionalizzazione della politica. Anche qui sono perfettamente d'accordo, l'ho introdotta perché io ho usato una serie di termini religiosi nella mia relazione, perché sono tecnicamente più pregnanti, però c'è un problema che purtroppo, siccome la cultura religiosa come cultura politica generale è scomparsa, è difficilissimo capirsi. Cioè, io quando parlo di funzione liturgica del partito, la gente pensa che io intendo dire spettacolo, una cosa. No, io intendo liturgia come lo intende la dogmatica cattolica, cioè la mediazione fra l'assoluto e il singolo. Cioè, che è un concetto molto, molto complesso e molto... Allora, l'ho ritradotto questo concetto di Benjamin, che anch'io ritengo un pochino limitativo perché sembra un po' trucco demagogico, della istituzionalizzazione della politica. Cioè, credo che questo sia un problema fondamentale della struttura del potere di tutti i tempi e della struttura del potere ancora di oggi. Cioè, questa idea che la rappresentazione di un problema possa essere recepita come la sua soluzione. Questo credo che sia un problema molto grosso, un problema che, diciamo, i fascismi hanno portato a un'abilità tecnica incredibile, che però resta tutt'oggi, pregnante. No, perché quando, per esempio, noi anche nei regimi politici contemporanei vediamo molte persone che arrivano al potere non tanto dicendo risolverò quel problema in questo e questo modo, ma semplicemente dicendo io risolverò quel problema. Come? Non si sa, ma la gente per il solo fatto di avere, diciamo, la rappresentazione di questa soluzione gli dà fiducia. Il problema posto da Calì, cioè, che sono poi due, il problema della realtà della nazione italiana, certamente questo è uno dei problemi enormi. E questo è uno dei problemi che andrebbero veramente studiati da un punto di vista di storia sociale, che secondo me è in Italia una disciplina molto carente, nel senso che tutti teorizzano la storia sociale e fanno grandi e nessuno la scrive. Io sono convinto che per esempio poter comparare la differenza fra il fascismo di Trento e il fascismo di Napoli sarebbe una cosa importante, che questa realtà della nazione italiana, cioè questo fatto che di cui noi parliamo, può essere scomposto in questioni molto complesse che vanno al di là della scomposizione possibile nella realtà tedesca. Indubbiamente anche la realtà tedesca, anzi ancora di più, ha dei problemi di stati regionali, di regionalizzazione, che sono questioni fondamentali e molto grosse. In Italia c'è una questione identica, secondo me aggravata da un problema di omogeneizzazione culturale che in Italia è minore di quello che c'è in Germania. Cioè, non voglio dire che in Germania c'è un'omogeneità culturale per cui, diciamo, tra Amburgo e Monaco di Baviera tutti la pensano allo stesso modo, però c'è un lavoro della cultura nazionale tedesca che ha fatto un certo lavoro di unificazione di concetti e di cose che sono molto diversi, che noi tutt'oggi sappiamo. Voi sapete perfettamente che diciamo, mettere un cartello di divieto in una strada di Trento, mettere un cartello di divieto in una strada di Catania è una cosa completamente diversa, perché, ma non perché voglio dire i trentini sono buoni e quelli di Catania sono cattivi, perché c'è una cultura diversa, no? C'è un approccio di... E questo certamente sarebbe un problema fondamentale che però è un problema aperto, perché non è che si può. E naturalmente è chiaro che, giustamente Calì richiamava, questo problema del fascismo come un problema di disciplinamento, cioè a suo modo come un problema, come un tentativo di arrivare a questa come dire, pianificazione, livellamento della nazione, che è uno dei problemi storici dell'Italia con i quali tutt'oggi ci dibattiamo. Sullo squadrismo come momento di coagulo, su cui è tornato anche il senatore Vagliani, molto giustamente, qui bisogna intendersi, cioè ci sono vari problemi all'interno di questo problema dello squadrismo. Cioè, c'è indubbiamente il problema dello squadrismo come base di potere. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il senatore Vagliani. Cioè, senza lo squadrismo come base di potere, nel senso come elemento nuovo, non controllabile, non si spiegherebbe neanche l'andata al potere di Mussolini, perché è l'ipotesi di far cessare così la guerra civile. Mettiamo il capo delle squadre e ci pensa lui. No, le squadre gli obbediranno, eccetera, eccetera. Questo, ecco. Se invece noi spostiamo, come alcuni secondo me, e non ho capito bene, forse in certi momenti anche Gentile ieri sera lo faceva, spostiamo questo allo squadrismo come una fonte di dottrina politica, di progetto politico, eccetera, eccetera, io su questo sono perplesso. Mi spiego. Non è che io voglio negare quello che tutti sanno, che la realtà ha dimostrato, cioè che gli squadristi abbiano avuto fortissime tensioni con la direzione del partito, abbiano tentato più volte di contrapporsi questo, eccetera, eccetera. Però la cosa sulla quale io non riesco a convincermi è che queste persone sarebbero state realmente capaci, cioè o avessero davvero voglia di esprimere più che un sentimento, come posso dire, psicologico generale, dietro il quale non c'era capacità di di reazione politica, perché questo certamente non può essere negato. La battaglia per l'eliminazione dello squadrismo e per la fu una battaglia che non richiese neanche il bagno di sangue, che tutto sommato richiese l'eliminazione dell'SA nel Terzo Reich. Cioè, bastò che si facesse sapere che la polizia avrebbe agito contro questa gente e questa gente si autodisarmò. Questo è innegabile, nelle sue memorie Grandi ricorda che quando Tamburini da Firenze gli telefona per dire assalteremo il carcere di Firenze, basta che Grandi gli dica ho dato ordine ai carabinieri di sparare perché questi non lo facciano. Cioè, ora, insomma, se fosse stato veramente un partito armato con un progetto politico, eccetera, eccetera, beh, non avrebbe avuto delle grandi difficoltà. Quindi lo squadrismo come base politica mi lascia molto perplesso. Poi, e questo richiama naturalmente al problema, sempre posto al senatore Vagliani, del problema della neutralità dell'esercito. Certo che anche in Italia l'esercito è un problema enorme. Secondo me è un problema anche più grosso che in Germania, per questo motivo. Perché mentre la classe militare tedesca, cioè mentre si può parlare di una classe militare tedesca come di un elemento di cultura, con tanti problemi, con tante questioni, eccetera, eccetera, ma insomma, come un elemento formativo della cultura della nazione, come un elemento portante dello sviluppo e della formazione dello Stato nazionale tedesco, in Italia di un esercito in questa funzione si può parlare molto limitatamente. È un esercito complesso, cioè diciamo è un esercito, adesso banalizzo e mi rendo conto che è eccessivamente banale, è un esercito di piccoli intriganti fondamentalmente, cioè un esercito di uomini che non hanno un progetto politico chiaro. Lo si vede benissimo quando il potere gli cade nelle mani e lo perdono subito. Cioè un uomo come, cioè se Badoglio non fosse stato quel mediocre politico che poi si è rivelato così, beh certo, probabilmente avrebbe potuto aggiustare le cose diverse, se la struttura, insomma questo è un problema, chiudo qui, mi scuso, sono stato anche troppo lungo. Ringraziamo il professor Combini. Allora, nel pomeriggio, subito dopo aver mangiato, si ricomincia.